come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di quelli stofanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Ma che c'hai? Che hai? Che hai? Cioè? C'hai la voce un po' bassa. Ma basta, sto andando a Palazzo Chigi, non è che posso andare a Palazzo canti Chigi. Canti e non canti. Ma non è che posso andare a Palazzo Chigi cantando chi, ma ormai ti si è appiccicato in fronte, è inutile che no, ti ribelli che a questa cosa. Anche sei chi co. Certo. Tu ragazzo mio vedi un'aquila lassù, tu vai con le gambe che hai, io non posso. Se non ci fosse Bossi in questi giorni, sai che Bossi sta subentrando un po' a Berlusconi come fonte inesauribile di gag per noi giornalisti, sì, per noi umili cronisti. Si esprime con dei versi gutturali, non so come definirli, no? Sì, però è diventato ogni giorno una sorta di, no, di fonte inesauribile, certo, non voglio certo ripetermi, però è così. E allora, innanzitutto partiamo da una cosa soft. Berlusconi non fa passi indietro, secondo Bossi. Sentiamo. Crede che ci debba essere una discontinuità nel governo, che Berlusconi debba fare un passo indietro a questo punto? Ma Berlusconi non lo fa, non ti richiede che tanto però non lo fa. Ma pensa che lo dovrebbe fare? Ma come? No comment, pensa che lo dovrebbe fare? No comment. Che fa trapelare qualcosa anche, se vogliamo, proprio se vogliamo, eh. Vabbè, poi non si è fatto mancare nulla oggi e in un piccolo lasso di tempo ha espresso tutto il suo repertorio, a partire dalla pernacchia. Il governo Monti, una pernacchia, sentiamo. Ministro, sul governo Monti, nipotetico del governo Monti? E dell'appello di Napolitano di ieri? Sul Napolitano si è fermato, niente pernacchia, l'appello di Napolitano, invece hai sentito una piccolissima pernacchia sul governo Monti. Sì, comunque si può andare avanti adesso. Si può davvero andare avanti così. E che ne so, non mi interessa. La rivoluzione, se toccano le pensioni, e poi il dito medio, che naturalmente non vedete in radio, ma insomma potete immaginare. Facciamo un po' la rivoluzione su pensione, ma togliamo le pensioni ai lavoratori che hanno sempre pagato per dare i soldi a Roma. Ora, dare i soldi ai tuoi parenti. La vita come ragazzo mio. Ci sono colpi di questo. Questa volta non ha pronunciato la parola stronzo, che invece è stata ampiamente pronunciata dal ministro La Russa stavolta, che risponde così a Claudio Amendola, e ripeto Claudio Amendola, l'attore Claudio Amendola, che ieri aveva aizzato la folla ai fischi durante un film, la presentazione di un film al Festival di Roma. Ecco allora il signor La Russa oggi arrabbiatissimo per questo, sentite. E rispetto a quello che è successo al Festival del film, che cosa vuole dire? Cosa è successo? Contestazioni. A chi? Anche a lei. Ah, c'erano quei cinque che fischiavano, ne ho visto uno più stronzo degli altri, come si chiama? Era stronzo, uno stronzo, perché un Amendola, che è uno stronzo, cioè non può aizzare la gente a fischiare, non mi è piaciuto, è uno stronzo. Finché il gallo canta, il gallo che canta. Hai capito? Ma sulla base di che cosa non puoi? Perché un fischio non ha mai ucciso nessuno. I fischi nella piccionaia, sei mandato alla Scala tu, sì, all'opera. Vabbè, se è inutile che ci fai il pistolotto, è chiaro che il problema non è quello, il problema non sono i fischi. Della Scala, il fischio dei legionisti, Il problema è che La Russa dovrebbe fottersene di Amendola che aizza la folla, eccetera. Dovrebbe passare, esatto, oltre Amendola. Esatto. Comunque, no? Il fischio è nobile, il fischio. Sì, sì, ma insomma. Il fischio anche. Ha aggiunto anche la Russa, ma non ce l'abbiamo in audio. So, lui piglia i soldi da Berlusconi, lo so quanto guadagna io, quanto guadagna lui da Mediaset. Vabbè, quindi? Che è il solito ritornello, vabbè. E quindi? Il mitico scontro tra Abete e Lupi. E Lupi ieri sera a Ballarò, lei sta andando fuori di testa. Dice Abete a Lupi, vicepresidente della Camera, sentiamo. Lei c'era però in questo debito pubblico, non è che c'ero io, no, mi perdoni, con tutto il rispetto. Con tutto il rispetto. Con tutto il rispetto. Lei non è che ha fatto il venditore ambulante quando si creava il debito pubblico alla fine degli anni, alla fine degli anni 80. Lupi, con tutto il rispetto, l'ha fatto lei, io facevo altre cose. Lupi, lei sta dando la mente fuori di testa. Ma che fuori? Le spiego il motivo. Silenzio! No, le spiego il motivo. Le spiego il motivo, certo, perché io ho fatto il cittadino, lei sta facendo il politico, io non ho mai fatto il politico, lei fa il cittadino, non confonda le sue responsabilità con quelle nostre. I piccioni spariscono. Allora, io posso dire una cosa tranquillamente, che nei confronti del debito pubblico, chiunque abbia avuto incarichi di rilievo, non solo politici nel passato, ha comunque una responsabilità, se non una corresponsabilità. Poi è evidente che il debito pubblico l'hanno fatto i politici, ma non è che i politici sono espressione così del nulla, non è che vengono dalla luna, non è che vengono dalla però bisognerebbe dire qua dalla galassia. Sì, sì, ma io non sto dicendo che Abete è responsabile del debito pubblico, sto dicendo che cioè, non è che sia una persona che passa lì per caso, cioè, ha avuto incarichi anche nel passato, non c'entra nulla col debito pubblico, però non è che si può dire voi politici avete creato il debito pubblico è stato creato da tutti quelli che ne hanno beneficiato negli anni 80 e non solo negli anni 80. 800 24 00 24, la Zanzara, dove andiamo? Cosa andiamo a sentire? Andiamo a sentire Scajola che ha detto in un'intervista, credo a Piazza Pulita, un'intervista a Ballarò, sì, bravo, Piazza Pulita è domani, Che insomma Berlusconi governa da più di 15 anni, basta agonia. Sentiamo Scajola, basta agonia. Guardi, non c'è dubbio che Berlusconi è sulla scena politica da 15 anni, più tempo di De Gasperi. Non c'è dubbio che ogni periodo ha termine. Credo non ci sia neanche dubbio sul fatto che Berlusconi non sia attaccato alla poltrona. Credo spetti a lui la responsabilità di guidare il nuovo percorso che l'Italia deve affrontare. Scelga lui in che modo, o proseguendo a governare fino alla fine della legislatura o individuando un percorso diverso. Ma andare avanti in agonia non è possibile. Bene, 18:40, 800 24 00 24. So che vi aspettate un ospite adesso, ma arriva. Un linguaggio, quello di Scajola, che più democristiano non si può. Sì, sì, molto democristiano, molto democristiano. E andiamo a sentire Francesco da Palermo, buonasera. Chi è Francesco? Sì, buonasera. Buon ascoltatore. Allora, per il dottore Parenzo, che è sempre molto spiritoso e ci riempie con il vai a casa, abbiamo capito quello che vorrebbe fare lui, mandare a casa il governo Berlusconi per fare tutto quello che ci chiede la BCE. Sì. Ma chi lo dovrebbe fare? Non si capisce. Centrosinistra, chi sono questi leader alternativi che si possono presentare a guidare il paese in questa fase delicata? Lasciando stare le parole adesso del democristiano, che i democristiani ormai sono distribuiti, diciamo, in tutto l'arco parlamentare, magari un bel giorno si riuniranno e torneranno a fare quello che hanno fatto per 40 anni, creando poi il debito pubblico che è alla base di tutti i problemi. No, Francesco, ma il bello è un altro, che queste famose cose che dovremmo fare, che ci dice l'Europa, le pensioni, il mercato del lavoro, non le vuole nessuno. Oggi Di Pietro ha detto che la lettera della BCE, insomma, le cose che vuole. Si vuole rispedire al mittente, perché poi un governo è sovrano e può decidere quello che fare. L'ho sentito ieri sera anche in TV. No, dice che le cose che vuole l'Europa sono da macelleria sociale. Insomma, ma quale macelleria sociale? Ma la macelleria sociale la faranno così, la faranno loro aizzando. Ora ho sentito anche la polemica dei fischi. In effetti il fischio è una stupidata. Un leader. Diciamo rappresentante politico deve passare avanti, non si può fermare a queste battute. Anche però, Amendola adesso sta esagerando, chiede addirittura le scuse alla Russa, perché altrimenti lo querela. Insomma, adesso non si può querelare uno perché dà dello stronzo a un altro. Quello è incredibile, cioè, se ne sentono di non tutti. Mi pare comunque, cioè, un problema epocale. In Italia, in Italia abbiamo perso, cioè quello di considerare, di mettere al centro l'Italia. L'Italia, al di là di Berlusconi che c'è, ci sarà, passerà di tempo, ma l'Italia non, cioè, no, non può fallire, perché neanche ci voglio pensare, è impossibile che noi falliamo, ma non si può ridurre così ad una classe dirigente che cioè, lesina un'intervista. Io ho sentito anche nei giorni scorsi il buon deputato del PDL che ha deciso di abbandonare il partito, non con... Ok, ma se tu vuoi il mio rispetto, hai deciso di abbandonare il partito, non devi andare al gruppo misto, ti devi dimettere, te ne vai e rifiuti tutto il sistema, non lo puoi fare. Va bene, grazie, grazie. Gabriele da Torino, buonasera. Buonasera a lei, dottor Cruciani. Dica. Buonasera, grazie per l'opportunità. Ma io una considerazione, anzi, mi permetta però prima di fare i complimenti al signor Parenzo, perché sottile ironia eccezionale. Va bene, dica. Quello che mi chiedo io è perché il Presidente della Repubblica, super partes, quindi la massima carica nello Stato, non prenda la decisione di staccare la spina a questo governo. Cioè, oramai è palese, è su tutti, lo spread fra i nostri bond, i BTP e i bund tedeschi è solo una mera questione politica. Oramai Berlusconi sta sulle scatole a tutti, italiani ed europei. Io mi chiedo come mai il Presidente della Repubblica non stacchi la spina a questo governo. Tutto scusi, qui. Gabriele, lei sa benissimo che c'è la Costituzione, esiste in Italia una cosa che si chiama Costituzione, lo sa, la conosce, so, questa lo cosa so, qui? Lo so, benissimo. Però purtroppo vede, come lo so io che esiste una Costituzione. No, ma esistono delle cose normali. Non è stata rispettata. Sì, ma lasci perdere, se non è stata rispettata non lo possiamo decidere né io né lei, lo decide la Corte Costituzionale quando non viene rispettato, non vengono rispettate le norme. Il punto non è questo. Esiste un governo eletto, ci sono dei passaggi normali che avvengono in qualsiasi democrazia, che questo governo abbia difficoltà in Parlamento e nel Paese è evidente, ma non è che si può decidere in base a quello di mandare via un governo, o non è che Napolitano può staccare la spina a Berlusconi. È una cosa che non esiste. Cioè, non, questa cosa che sta dicendo lei è una cosa che non esiste. Un governo può perdere consenso nel Paese, certamente, però poi alla fine è in Parlamento che si misura, e finora nelle prove che sono state sostenute dal governo Berlusconi in Parlamento, alla fine ce l'ha fatta. Questo è... Sì, ce l'ha fatta, però sappiamo tutti come ce l'ha ma fatta. Ma come? Quelle sono cose che possiamo pensare io, che può pensare lei, che fanno parte della discussione politica, il dibattito politico. Lei mi potrà dire se ha comprato i voti, cosa mi vuole dire? Sì, esatto, proprio quello. Ah, bene, allora, questa qua è certificato, cioè le sta dicendo, è certificato che si sia comprato i voti. Ma non è certificato questo. Benissimo. Fa parte del dibattito politico, perdoni, tutto questo. Non è che, vedo, non è che Napolitano può chiamare Berlusconi per dire... io vedo un deputato che passa da uno schieramento all'altro solo per fare un favore al Presidente del Consiglio. Questo secondo me è una... Ma ci sono dei deputati palese che sono passati dalla maggioranza all'opposizione. Eccoci qui, 800 24 00 24. Caro Parenzo, c'è il ministro Sacconi che se la prende con noi per le dichiarazioni di ieri di Ferrero. Con noi? Sì, sì, ma non so perché, infatti. Apprendo allibito di una... Aspetta un attimo, Pannella? Marco? Pronto? Sì, vabbè. Telefonino di Marco. Ma è inutile che cerchi di fregarmi con Pannella, su. Liberali! Marco? Marco? Pannella? Giacinto! Niente, ma non risponde. Come mai non risponde? Che ne so. Non risponde nemmeno un'altra persona che avevo invitato, ma insomma è l'inizio della zanzara, cari ascoltatori. Che meraviglia, come l'ho. È l'inizio della zanzara, Allora, prendo allibito di una dichiarazione dell'onorevole Ferrero, resa peraltro alla radio del gruppo editoriale di Confindustria, che nella foga antigovernativa sembra da un po' di tempo raccogliere un po' di tutto. No, veramente, sì, caro Ferrero, guardi, sì, caro Sacconi, guardi che noi non abbiamo raccolto nulla, eravamo lì perché ospitiamo, chiunque, e abbiamo anche, ci siamo messi a scherzare su questa follia di Ferrero, che l'ha paragonata ad una sorta di cupola mafiosa. Lo afferma in una nota il ministro del lavoro Sacconi, spiegando di riproporre la dichiarazione affinché ciascuno possa giudicare questa inaudita violenza verbale, che esaminerò anche sotto il profilo delle eventuali responsabilità di chi l'ha prodotta. Vabbè. Ecco, là, poi gliel'avevi anche detto a Ferrero, cioè, guardi che però... Ma infatti glielo ho detto, il segretario della Fondazione Comunista, alla trasmissione della Zanzara su Radio 24, ha sottolineato che l'unica organizzazione che impedisce, anzi adesso lo faremo sentire, l'unica organizzazione che impedisce allo Stato di esercitare la sua sovranità in tutto il territorio nazionale è la mafia. E la cosa fatta dal ministro Sacconi permette a datori di lavoro di comportarsi nello stesso modo. modo Sacconi si comporta come i boss mafiosi. Sacconi all'attacco della zanzara. Senti, senti. Invece che delle porcherie che ha combinato Sacconi, delle porcherie che ha detto Sacconi. C'è questa cosa dell'articolo 8 messo nella manovra finanziaria già dell'estate. Se permette che il contratto nazionale e le leggi dello Stato non siano più in vigore dentro le aziende laddove c'è un accordo sindacale, e non so se diciamo se è chiara l'entità dell'accordo, vuol dire che le leggi dello Stato non valgono in tutto il territorio nazionale. E l'unico posto che ha fatto una cosa simile è laddove la mafia comanda, che effettivamente ha messo le sue leggi al posto di quelle dello Stato. E poi insiste ancora. Forte, no, ma io gliel'ho detto, ma che colpa, scusi, caro ministro Sacconi, ma che responsabilità ha la zanzara in tutto questo? Glielo dico chiaro e tondo, che responsabilità rispetto a queste parole? Abbiamo detto, è una follia, ma di che sta parlando? Può paragonare non si può paragonare Sacconi ai boss mafiosi? Cioè, non è il primo che passa, è comunque il leader di un partito. È il leader di un partito, se la prenda con lui, che c'entra la radio di Confindustria, che nella sua foga antigovernativa, ma noi che c'entriamo con tutto questo? La zanzara. Ma che fare uno dei programmi più governativi che esiste. No, ma non dire stronzate, non dire stronzate, perché non è così. No, invece quel Parenzo che sostiene sempre il governo, no? No, ma cosa c'entra la foga antigovernativa? Però cosa c'entra la furia? Vabbè, comunque noi l'abbracciamo forte, ministro. No, lo prendo io, stasera ci sarò io da Sacconi. Vai da Sacconi subito davanti al Palazzo Chigi. Palazzo Chigi tra pochi minuti. Ancora Ferrero su Sacconi, ma giusto perché lo stesso Sacconi ha detto di riproporlo, ma poi comunque chi se ne frega? Ma non me ne frega niente di quello che dice Sacconi, nel senso non me ne frega niente, nel senso che non ho timore di riproporre quello che ha detto Ferrero. Se la vedessero in tribunale, che c'entriamo noi? Ha detto lui, mica noi. Ma sì, ma poi se la vedessero in tribunale, se vuole, via. Va nella direzione di permettere la distruzione delle leggi dello Stato, esattamente come fa la mafia. Se il datore di lavoro va lì e dice o lavorate a meno o lavorate senza applicare queste leggi o io vi chiudo la fabbrica, è chiaro che la gente lo accetta perché è ricattata. Lo Stato serve proprio a garantire dei diritti ai più deboli, non al fatto che i più forti facciano quello che vogliono. Vabbè, questo Ferrero, ieri sera qui alla Zanzara, con Sacconi che è furioso anche con noi, cose da pazzi. Noi l'abbracciamo forte, d'altra parte io, come dire, considero le cose che ha detto Ferrero una follia inaudita, dopodiché sia nel merito di quello che dice, sia nel paragone che ha fatto, più di questo non possiamo fare, che dobbiamo fare? Ma non è che l'abbiamo fatto apposta, non è che abbiamo chiamato Ferrero apposta. Abbiamo intervistato un leader di partito, lui è un ministro del lavoro, ministro del welfare, sia superiore, se lo quereli in tribunale, lo chiami in tribunale, faccia una denuncia, ma non se la prenda con la zanzara. Andrea da Padova, buonasera. Ah, Padova, una bella città. Buonasera. Dica. Sia a Cruciani sia a Parenzo, visto che abito nella sua stessa città. Niente, io condivido pienamente quello che lei ha detto sia sulla telefonata precedente, cioè che il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere in questa situazione, parliamoci chiaramente, sarebbe un precedente molto pericoloso. E allora? C'è attualmente una maggioranza di governo che io credo sia molto diversa rispetto a quella uscita dalle elezioni del 2008. Non la chiamerei maggioranza di governo. Sì, ahimè, dottor Parenzo, capisco che non c'è più Fini, c'è Scilipoti. Guardi, io sono di centrosinistra. No, io lo chiamerei accrocchio di interessi, non maggioranza. Sì, lo so, come ha detto anche Cruciani prima, noi possiamo pensare, e io condivido il pensiero di chi crede che ci sono stati degli scampi. Vabbè, allora? No, dico, il Presidente non può fare niente, la situazione è che io sarei per che Berlusconi facesse questo benedetto passo indietro e si arrivi a un governo tecnico. Con lo spread al 346 tra i Bund tedeschi e quelli italiani, sì, è inutile, bisogna attuare la cosiddetta lettera di... Va bene, allora? Io credo che cioè, la situazione è drammatica, perché se uno vorrebbe la caduta del governo, credo che... Vabbè, Andrea, però mi dica quello che pensa, perché altrimenti lei ci sta descrivendo una situazione che conosciamo. Dopodiché, sì, la sua idea qual è? A questo punto l'unica soluzione sarebbe un governo tecnico. Perché va bene, lei vuole un governo tecnico. No. Francesco dalla provincia di Ravenna, buonasera. Pronto? Buonasera. Dica, la sentiamo male, Stanislao da Roma, buonasera. Pronto? Dica. Salve. Senta, siccome in questo paese la memoria è spesso labile, vorrei che ci ricordassimo quando, 2 anni e mezzo fa circa, 3, quando è scoppiata la crisi, sì, il caro Berlusconi e il suo geniale ministro delle finanze Tremonti, che ci raccontavano che noi stavamo molto meglio rispetto alla crisi di tutti gli altri paesi, compreso Germania, Nord Europa, Inghilterra, Stati Uniti, perché noi la subivamo meno, saremmo usciti prima e meglio degli altri. Poi ancora 6 mesi fa, quando ci raccontavano che no, nei PIGS la I non era per l'Italia, era per l'Irlanda, perché noi stavamo di nuovo comunque meglio dell'Irlanda, della Spagna, Portogallo e ovviamente della Grecia. E adesso che cosa ci vengono a raccontare allora? E che ne so, non lo dica lei, che ci vengono a raccontare? Non lo so, adesso invece... Ma sono mesi che bisogna prendere provvedimenti... Quando secondo loro stavamo meglio era merito del governo, del loro governo e delle loro capacità. Sì. Adesso invece che stiamo così, il mercato, il mondo si è girato. E la crisi internazionale. Bene, grazie Stanislao. Ci sentiamo dopo il giornale radio Stanislao. Delle 19. Stanislao, un bel nome, Stanislao, un nome elegante, elegantissimo. Io sarò a Palazzo Chigi. Benissimo. Cerca di incrociare il ministro Sacconi, che è arrabbiato con noi. A dopo. Agli ordini. Siamo qui 19:16, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Scusi, Palazzo Chigi, di qua? Grazie, pronto. Sta andando a Palazzo Chigi, come posso immaginare, no? Sì, ho il Tom Tom, come vedi, no? Chi è Tom Tom? Ma chi? Ma dove? Ma è possibile? Sei a Roma e non sai dove è Palazzo Chigi? Palazzo Chigi di qua? Vabbè. Titoli del TG3, titoli del TG3. Tutto in diretta, non vedere essere mai nascosto nulla. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Vertice continua a Palazzo Grazioli per decidere il piano di emergenza prima del G20. Berlusconi, io vado avanti, vediamo chi mi viene contro. Consultazione al Quirinale, Bersani, serve una scossa immediata, Casini via, Berlusconi o sacrifici inutili, al Colle anche Tremonti, D'Alema ospite al TG3. Stasera le nuove misure, ma non sembrano previsti interventi straordinari, la Marcegaglia sia la patrimoniale, Banca Italia onorare gli impegni europei. Bossi un passo indietro di Berlusconi, inutile chiederlo, non lo farà, nuovo no alla riforma delle pensioni, si rifanno vivi gli scontenti del PDL. La Merkel e Sarkozy incalzano la Grecia, serve chiarezza sugli impegni presi e domani a Cannes prevertice europeo sui casi d'Italia e Spagna. Proseguono febbrilmente i lavori di bonifica nelle zone colpite dall'alluvione, allerta massima per la nuova ondata di maltempo in arrivo. La sofferenza cerebrale di Cassano causata da una piccola anomalia cardiaca, l'operazione venerdì, entro 6 mesi il recupero. Il Milan ti aspettiamo. Ho denunciato la zanzara, per violazione di domicilio, e nel silenzio della sera. Allora, forse una canzone fatta appositamente per noi. Ho denunciato la zanzara per violazione di domicilio, caro Parenzo. Qui in realtà il ministro Sacconi ci imputa di avere ordito una trama ai suoi danni. Per aver ospitato Ferrero, che ha detto una follia naturalmente su Sacconi, e questo lo abbiamo detto in maniera molto chiara. Però che c'entriamo noi? Punto interrogativo. Non c'entriamo assolutamente nulla. Però vabbè, ma abbiamo fatto un'intervista. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega poi? Non ha importanza, no? Non si passa oltre queste cose. Se, cioè, se un ministro non riesce a capire la differenza che c'è tra uno che dice una parola e un altro che lo intervista, beh, non so cosa dire. Cioè, non è che l'abbiamo. Ma poi a pensare a un complotto. Non è che l'abbiamo. La Confindustria, ma cosa c'entra? Vabbè, ma lasciamo perdere. Sì. Abbiamo con noi Michele Santoro, buonasera. Buonasera. Come sta Santoro? Come stai? Finalmente. Bene. Allora, domani... Intanto in bocca al lupo, in bocca a tutti. Vabbè, domani, come al solito, primo. Non si sente, sei collegato da una zona in cui non si sente bene, fermati. Sono assolutamente fermo. No, lei Santoro, no, ma... Il saletto di montaggio. No, ma è Parenzo che non si sente, no? Lei si Parenzo, lei... sì, no, vabbè, no, allora. La sento bene, Parenzo che è collegato davanti a Palazzo Chigi per questa riunione del Consiglio dei Ministri, eccetera, eccetera. Vabbè, domani inizia servizio Siamo pubblico. Siamo assediati dai Parenzi, diciamo, in questo momento. Esatto, bravo. Allora, vogliamo definire una volta per tutte che tra Sandro Parenzo, che è uno dei... Ma non interessa, no, a nessuno questa, no, cosa, vabbè, però non è servizio pubblico. Sì, lo so, però definiamo una volta per tutte. Tra, sì, Sandro Parenzo, che è uno dei... No, come si, non me lo posso un definire? Un grande editore. È uno di quelli che sta collaborando in maniera molto, no, alla realizzazione di servizio pubblico di Santoro. E David Parenzo, che pure ha lavorato con Sandro Parenzo, certo, non c'è alcun tipo di parentela. Lo vogliamo chiarire una volta per tutte, Parenzo? Lo chiariamo, sì, o no? Però si assomigliano un po', hanno delle caratteristiche. In cosa si assomigliano? In cosa si assomigliano? Santoro, scusi. Sono particolarmente insistenti quando hanno un progetto da portare avanti. Vabbè, questo è. Che anche... lascerebbe pensare qualche parentela, elemento in comune di DNA. Ecco, ecco, sì, quello sì. Quello, no, sì. Però in realtà. Insomma, però mi dicono che il Parenzo giovane è molto generoso col denaro, mentre il Parenzo, l'altro, diciamo, più, dai, no, l'altro è molto molto attento, è attentissimo, è più attento, esatto, sì, è più attento. Ma Parenzo, stranamente, che poi Parenzo ha una, adesso dico, un luogo comune pazzesco, sì. Parenzo ha anche, insomma, una, no, un qualcosa di ebraico, vabbè, insomma, beh, no, io più di qualcosa, questo, è un luogo comune vergognoso, sì. Abbia, sì, è un luogo comune, è un luogo comune, anche ridicolo. Il piccolo ha questo tratto di religioso, ma che non gli dà nessuna, come dire, caratteristica di no, ma sto dicendo il piccolo, il grande non lo so, come dire, trattenuto nella spesa, ecco, da quello che io so, spesa. Spende i soldi, ecco, vabbè comunque, allora, abbiamo invitato Santoro per parlare della genia della ebraicità di Parenzo, assolutamente, assurdo, no, credo. Assolutamente, no, domani inizia, sì, servizio pubblico con un titolo che è scassiamo la casta, com'è che me lo sono appuntato qua, scassiamo la casta, giusto? No, scassare la casta. Abbiamo cambiato il licenziare la casta, ci sembrava più adatto al momento politico. Licenziare la casta. Lei si definisce, si può definire un po' un indignato della televisione? Ecco. Le piace questa definizione o è anche questa, no, una cosa? No, assolutamente. Sono un professionista che ha attraversato moltissime stagioni e quindi assolutamente non posso dire di essere legato a questo tipo di definizione che, come dire, contemporanea. Io purtroppo vengo da molto lontano, quindi mi definirei in tanti modi, sicuramente un nomade, uno che ha attraversato un tantissime nomade storie. Senta, ma le faccio subito una domanda. Giovedì è lo stesso giorno in cui va in onda un'altra trasmissione di una persona che lei conosce bene, che si chiama Formigli, che è stato tanti, sì, anni con lei. Com'è stato? Come perdere un figlio? L'ha vissuta come un tradimento? Gli rimprovera qualcosa? No, che ne so? No, non lo diciamo nemmeno per scherzare. Che... Ma no, ma è un figlio. No, io sono sempre stato favorevole alla crescita dei miei collaboratori e quindi penso che sia comunque, come dire, un valore aggiunto che si dà anche al mio lavoro, il fatto di riuscire a produrre tanti talenti che invadono la televisione italiana. Ce ne sono di alcuni a cui sono più legato, diciamo, sentimentalmente, come Riccardo Iacona, perché però sono tutti bravi, si fanno tutti onore, e quindi quando vengono riferiti a me è come se mi si facesse un complimento, quindi in questo non c'è niente, cioè, è contento del fatto, né c'è accanimento da parte mia di andare il giovedì, è stata una scelta sua di andare in onda in un giorno che sapeva sarebbe stato oggetto di questo progetto, quindi ha fatto questa scelta forse anche per coprire un vuoto di pubblico che si era creato, quindi ok, convivere. Però nel momento del distacco c'è stato un po' di cioè lei l'ha vissuto un po' come un tradimento, non se lo aspettava, insomma, no, pensava che magari poteva essere, no, del nuovo progetto, poteva far parte del nuovo progetto o no? Ma io pensavo che poteva far parte del nuovo progetto, non solo, era andato anche a parlare benissimo di lui alla 7, quindi ho fatto anche di più, diciamo, gli ho fatto un'expertise con la 7, quindi gli ho spianato la strada, quindi sono stato molto, come gli ha spianato la molto strada, generoso nei suoi confronti, perché con l'amministratore delegato della 7 ho detto che lui era molto bravo e che quindi sei lì è un po' merito anche di Michele, cioè, è anche merito suo, certo, è anche merito mio, perché no? Cioè, ma lei ha consigliato Formigli prima che poi la 7 aprisse una trattativa con Formigli? Cioè, perché doveva far parte della sua squadra? Io credo che la trattativa con Formigli è stata aperta dopo che la nostra era stata chiusa, quindi non c'era una trattativa parallela, perché Formigli era con noi, sì, certo, mentre stavamo facendo questa trattativa, quindi non c'era nessuna trattativa parallela. Senta, no, ti ho detto, lui ripeto, insomma, se vuole farmi polemizzare, ma non ci riuscirà. No, ma lo sto facendo. No, sono assolutamente dalla sua parte nel tentativo di costruirsi un percorso professionale suo. Tutti quelli che mi conoscono sanno che io ho dato una mano a chi ha lavorato con me per andare per la sua strada, assolutamente. Quindi ci sono persone che sono cresciute con me, che lavorano nella squadra di Report, che peraltro sono bravissimi, mi farebbe anche piacere averci adesso, insomma, a lavorare con noi. C'è Riccardo che ho citato prima, c'è Luisella Costamagna, insomma, sì. Ci sono tantissimi. Ah, a proposito, la Sette ha fatto questa scelta, no, di sostituire Porro con la Costamagna. È una scelta che lei vede qualche volta in onda, le piaceva più prima o dopo? O adesso, ma guardi, io per abitudine non faccio, come dire, non sono come Vespa che vado in giro a stilare classifiche di quelli che possono lavorare meglio degli altri. Sì. Penso che chi fa questo lavoro dovrebbe avere il pudore di lasciare al pubblico le decisioni. Ecco, quindi io mi attengo a questo criterio. Quello che posso dire è che la sostituzione della Costamagna non si comprende assolutamente da nessun punto di vista, quindi c'è una cosa politica, dice lei? È qualcosa strana. Una cosa politica, c'è uno vicino al centrodestra che sostituisce una persona che più o meno è un po' la linea che stanno portando questi editori, diciamo, in questo momento, che ogni volta che parla uno di sinistra ci deve essere ammesso che Telese sia di sinistra, perché insomma è un concetto un po' largo quello, diciamo, dell'atteggiamento politico di Telese. Non è di sinistra, io lo conosco come di sinistrissimo, no? Di sinistra. Lui dice di essere di estrema sinistra, insomma, però poi bisognerebbe vedere che cosa effettivamente è. Ma insomma, comunque questi sono problemi suoi. Sì. Ripeto, non giudico il collega televisivo, certo, sto parlando delle sue idee politiche, che è una cosa un po' differente. E ogni volta che parla uno a sinistra c'è un altro un po' di destra, e come dice Travaglio, se uno sta facendo un'affermazione ci vuole uno nel taschino che fa l'affermazione contraria, perché siamo arrivati a questo punto di debolezza della libertà di pensiero in Italia, perché ovviamente lo sanno tutti, c'è un monopolio che schiaccia completamente la televisione generalista, e anche quelli che timidamente cercano di contrastare questa tendenza alla marmellata, come la Sette, anche perché gli conviene, parliamoci chiaro, che in una situazione in cui la RAI si sfascia come si sta sfasciando, basta che la Sette si posizioni appena appena al margine di questo sfascio che ottiene pubblico, allarga il suo pubblico. Sì. Io voglio capire una cosa, l'operazione che fa, però la fa con estrema timidezza, perché Telecom è uno dei principali inserzionisti di Mediaset, come tutti sappiamo. Sì. Contemporaneamente Mediaset Premium fa gli spot sulla Sette, insomma è tutta una situazione abbastanza, come dire, è molto debole da questo punto di vista. Sì, complementare. Senta, siamo tutti complementari. Lei ha detto che farebbe volentieri, perché si sente all'altezza, effettivamente guardando le altre persone che l'hanno fatto non c'è dubbio, il direttore generale della RAI. Ecco, se lei fosse il direttore generale No, io ho detto che lo farei volentieri, perché mi piace l'idea di un direttore generale che abbia avanzato pubblicamente la sua candidatura e che la confronti con gli altri, in modo che sia chiaro che le persone che vengono scelte sono quelle che hanno i titoli maggiori. Quindi la mia è una provocazione per ottenere che finalmente ci sia una trasparenza nelle nomine dei direttori generali della RAI. Sì. Mi piacerebbe che venisse nominato uno meglio di me, tra l'altro non sarebbe nemmeno troppo difficile trovare uno più capace di gestire un'azienda. Magari facciamo le primarie, no? Facciamo le primarie. Magari si potrebbero fare le primarie. Non ho capito, ma perché gli abbonanti sono buoni solo a pagare il canone, diciamo, potrebbero tranquillamente anche fare scegliere chi sono gli amministratori, loro. No? Questo è bello, gli abbonanti che scelgono a pagare il canone. Senta, ma se lei fosse direttore generale Rai, che farebbe oggi con Minzolini? Ma Minzolini non credo farebbe ancora la stampa se io fossi direttore generale della Rai. Scusi, alla stampa dove lavorava prima, no? Ah, sarebbe ancora la stampa, dice lei, se fosse, sarebbe rimasto lì tranquillamente. Sarebbe rimasto lì a fare il suo lavoro, lo trovo una persona non particolarmente interessante, soprattutto per dirigere un telegiornale importante quale il TG1. Io non farei dirigere manco a me il TG1. Beh sì, non sarebbe la persona più adatta lei per dirigere il TG1. Il profilo del TG1 è stato sempre differente. Non assolutamente può, sì, questo è vero. Diretto da una persona. Cioè, però bisogna dire la verità, è stato sempre nominato. Su Garimberti, perché su Garimberti pure è interessante, perché Garimberti ha paragonato il TG3 al TG1 dicendo che è incredibile, scusi. Garimberti è il presidente della RAI, no? Ah, il presidente della RAI, no? Ah, Garimberti sì. Chi è? Adesso è piuttosto un presidente di un circolo del tennis che un presidente della RAI. Però no, ha paragonato il TG3 al TG1, dicendo che anche lì c'è un problema al TG3. C'è un problema nei titoli, sì. nella faziosità dei titoli. No? Come le ho detto prima, quando si dice una cosa a uno di destra, poi si deve dire qualcosa a uno di sinistra, perché se no... Un paraculo, insomma, lo posso dire. Ecco, quando tiri la palla, cioè quando lui tira la palla in un campo deve anche ribaltare, andare dall'altra parte e tirarla in quest'altro campo. Però come tennista credo gli verrebbe più difficile di fare un'operazione del genere. Vabbè, no, c'è il coso, cioè, no? C'è un altro sport, come si chiama quell'altro? Sempre con il coso. Che si tira sul muro. Che si tira sul muro, uno di torno. Là si può fare tutto, là. Uno vabbè. Abbiamo la pubblicità, torniamo subito. Lei sa, ormai la pubblicità è una cosa importante, soprattutto lo sapeva anche prima. È sempre stata una cosa importante. È sempre stata una cosa importante. Però da un po' di tempo ci pensa di più. Prima ci pensava la RAI a raccogliere pubblicità, no? Perché da lei contribuiva molto. Io l'ho sempre raccolta tantissimo. Lei l'ha raccolta tantissimo. Però diciamo la verità, da quando ha iniziato questa nuova avventura, un po' più di attenzione ci mette alla pubblicità, no? Non c'è dubbio, la raccolta pubblicitaria. No, ci ho messo sempre abbastanza. Pure prima, va bene. La stessa, sì. Va bene. Eccoci, mi mettete un attimo la favolosa ministra Bernini, prima di tornare subito da Santoro naturalmente, la favolosa ministra Bernini, caro Parenzo, ieri sera a Ballarò, perché vorrei dare io personalmente, nella mia modestia, caro Parenzo, delle lezioni di comunicazione sul ponte sullo stretto di Messina alla signora Bernini. Non pronunci mai più caro ministro Bernini, perché non fanno un corso, Parenzo, alle persone prima di andare in televisione? Perché il ponte sullo stretto di Messina è indifendibile, io lo difendo, ma lo difendo così da un punto di vista filosofico, no? Culturale. Dopodiché uno non può andare in televisione e parlare di corridoio Berlino-Palermo, perché se parli di corridoio Berlino-Palermo è una follia totale, cioè, è evidente. È come i neutrini della signora del ma ministro, non puoi andare, ma perché non fanno un corso a queste persone prima di andare in televisione? Fatto il corso, perché ti ricordi che Berlusconi ha bacchettato il corso, la Ravetto? Ho capito, come no? Ma non puoi fare il corso. Diceva puoi sempre di no. Vabbè, ma facciamolo sentire no dopo, mi sento male. Quando vedo le persone soffrire in televisione così ed essere ridicolizzate, un po' mi sento male. Cioè mi sento male, mi immedesimo negli ospiti e mi sento, dico perché pronunciano queste parole? Perché si sono preparati così male? Ogni tanto Santoro con i suoi ospiti non si sente male ogni tanto, quando sente dire delle castronerie, quando sente dire delle cose talmente grosse, non si sente male lei? Sono troppo vecchio, ho attraversato troppe... Troppe situazioni per sentirmi male di fronte a delle sciocchezze, insomma. No, non si sente un po'. Sono vaccinato. Non si sente un po' ogni tanto, no? No, intanto ho sentito lei dire che insomma abbiamo un ponte filosofico, questo non è male. No, ma anche questa, per carità, può essere anche. Bellissimo, no. Cioè l'idea di avere un ponte filosofico, questo nemmeno quando andavo all'università. Però non stravolga le cose, io non ho detto così, ho detto che lo difendo da un punto di vista filosofico, non ho detto che abbiamo appunto un ponte filosofico, ho detto che. E l'idea transitiva. No, ho detto che l'idea del ponte sullo stretto è un'idea di un paese che va avanti, l'idea di unire due posti, ma in generale il ponte, non il ponte sullo stretto, i ponti in generale. E infatti questo paese va avanti con questi ponti filosofici, insomma, poi per il resto va indietro. Ma sarebbe troppo lungo. Senta, ha sentito di Gori che lascia Magnolia per collaborare con Renzi? È un po' strano, uno lascia la televisione per no, il produttore televisivo, ex direttore. Ma non so che cosa lascia, penso che sia ancora il proprietario di Magnolia, no? Beh no, resta, sì, adesso ha delle azioni, ha delle quote, resta nel consiglio d'amministrazione, ha delle quote, non so, resta azionista, ma non lascia gli incarichi operativi. Principale azionista. Non lo so se sia ancora il principale azionista, in realtà no, credo che sia la proprietà sia straniera, adesso non so bene, oggi leggevo delle agenzie in cui... Ma insomma... Ma Renzi, come lo vede Renzi? Renzi le piace? La battuta più bella di oggi è Renzi le piace come politico? Ma guardi, è un discorso complesso quello su Renzi, nel senso che indubbiamente il dinamismo che ha dimostrato con questa sua convention è un elemento molto interessante, cioè non possiamo dire di no, perché ha smosso le acque, ha costretto i brontosauri del PD a uscire allo scoperto, li ha sfidati, sì. Tutte queste sono cose sicuramente positive, cioè questo attacco alla inamovibilità di un corpo dirigente che ricorda la vecchia Unione Sovietica non è male, insomma. Sì, infatti. Quindi questo va benissimo. Io ho avuto qualcosa da osservare proprio sul formato, diciamo così, televisivo di questa convention, dove si riconoscevano dei tratti di berlusconismo molto accentuati. Ecco, e quali sarebbero, per esempio? Poi quando abbiamo saputo che l'ha fatta Gori, insomma, abbiamo capito che insomma queste mie osservazioni non erano, per quanto io stimi Gori sul piano professionale. Ma poi Gori con Berlusconi, non è che abbia ormai tutti questi rapporti, ha fatto direttore di Canale 5. Ma ormai... no, però si è formato dentro, cioè, voglio dire che non abbia più rapporti non vuol dire niente, cioè il suo know-how è fatto moltissimo di quel mondo, di quella cultura, cioè adesso non credo che questo possa essere messo in discussione. No, no. Poi quando Renzi dice che vuole far fuori berlusconismo e anti-berlusconismo, lì un pochino gli dovrò chiedere i chiarimenti, perché sa, sono un po' preoccupato, diciamo, almeno per me. Cioè, è sbagliata senso? Per Santoro la trasposizione del format televisivo in politica, questo mi pare il punto. Comunque diciamo una cosa seria, no? Dopo questa conversazione, sì, tra l'altro anche molto divertente, sì, scherzosa, anche le mie osservazioni sul ponte erano scherzose. No, ma lo so, ecco, appunto, guardi, scherziamo, che vengo massacrato ogni giorno per aver scritto punto, il punto che io ancora non ho capito è se effettivamente Renzi e tutti quelli che la pensano come lui siano convinti che noi usciamo da questa situazione in cui siamo immersi con un discorso di buona e saggia amministrazione, oppure se c'è da intaccare, diciamo, in profondità un meccanismo economico che ha fatto Cilecca, che ha avuto delle crepe clamorose al punto che lo stesso Greenspan ha dovuto ammetterlo davanti alla Camera Bassa negli Stati Uniti, no? Ha detto il pensiero liberista aveva una falla al suo interno e io non me ero accorto. Ora questa falla è chiara a Renzi e a quelli che la pensano come lui, però sensazione che non abbiano molto chiaro il problema. Però bollare Renzi come, non dico che l'ha fatto lei, però l'ho sentito dire, eccetera, come neoliberista, come qualcuno che vuole liberalizzare o comunque vuole licenziamenti facili, cioè mi sembra, francamente, non dico che l'ha detto lei. Ma non è così semplificata la situazione, è evidente che il pensiero di Renzi è un poco più complesso, però sicuramente non tocca questo nodo che io le sto dicendo. Io devo ascoltare il presidente del Brasile che fa una dichiarazione e dice: un momento, dal mio punto di vista l'idea che si esce dalla crisi con i licenziamenti più facili e intaccando i diritti dei lavoratori è totalmente sbagliata. Ma io vorrei sentire qualcuno in Italia dire: no, Renzi non lo farà perché non è un uomo di sinistra. È detto alla... Se non lo fa, mi pare difficile che possa fare l'Obama italiano. No, non è di sinistra Renzi, su questo non c'è dubbio. Non ha una cultura, non ha una tradizione di sinistra. Allora può essere il leader del centrodestra, che mi sembrerebbe un bel... non è escluso, anzi, rispetto alla situazione attuale, rispetto a Berlusconi, in molti lo vorrebbero. Se lo vorrebbero. Non ha uno competitivo contro di lui, io non vado a votare, così gli consento anche di vincere. Senta, ma se io ho fatto un ragionamento un po' tortuoso, come mi capita spesso, le voglio fare questa domanda: ma un eventuale partito, cioè quanto vale elettoralmente Santoro? Più Travaglio, più Vauro, insomma Santoro, quanto vale una lista Santoro Santoro Travaglio, quanto vale secondo lei? Secondo me il 10%. Ma dovrebbe venire a cena una sera con noi per capire come, insomma, è complessa la discussione e come è difficile che noi possiamo formare insieme un partito, però diciamoci la verità, insomma, qui sono in tanti che formano i partiti, non è che noi con Travaglio o Vauro non ne potremmo fare uno. Appunto, dico. Però sarebbe sicuramente un partito che qualche entusiasmo solleverebbe. Ma quanto potrebbe valere una cosa del genere? 8%, 10%. Io non credo in questo tipo di partiti, io non credo nei partiti personali, quindi non credo nei partiti che si chiamano Renzi, che si chiamano anche Di Pietro, insomma. A me piacciono i partiti che hanno una loro storia, un insediamento in valori condivisi. Cioè, questa è la mia visione. Cioè, mi dia del comunista, sarei già più contento che rispetto al fatto che si pensi di me che voglio fare un partito. No, ma non è un gioco. Il partito Santoro. Queste sono cose che sono divertenti da scrivere sul Libero e sul Giornale, però no. Solo da persone che non mi conoscono bene. Senta, un'ultima cosa è questa, ma lei prima o poi, lei è stato già europarlamentare in una condizione particolare dopo l'editto bulgaro, ho già fatto questo errore, sì, a raccogliere in giro voti per portarli sul tavolo di Prodi, va bene, poi dopo si è annoiato, si è addormentato al momento in cui li ho messi davanti. Come si è addormentato? Ma è stato il primo a raccontare che quando uno parla con Prodi, lui spesso e volentieri alza gli occhi al cielo e si appisola, insomma. Poi come dopo è arrivato il Grillo, quindi siamo perlomeno in due poter testimoniare. Ma prima o poi, insomma, a un certo punto uno nella vita, può darsi pure che si stanchi di fare giornalista e conduttore televisivo, eccetera, eccetera. Non pensa di tornare a fare politica? Insomma, è una cosa, insomma, uno può pensare di fare del bene al proprio paese, di candidare. Io dovrei dirle, no, non farò mai, no. Però se io facessi questa dichiarazione, come dire, definitiva, sarei troppo tranquillizzante, quindi non posso farla. Cioè, è chiaro che tutti quelli che mi conoscono bene sanno che l'ultima cosa che vorrei fare è fare politica. Di nuovo costretto a misurarmi con i partiti, con quelle dinamiche lì. Però perché dire no, non lo farò mai? Bisogna vedere che cosa fanno questi. Insomma, onestamente, lasciargli campo libero, che fanno un po' quello che vogliono, che stanno sempre lì, non si dimettono mai quando perdono, questa è una roba veramente insopportabile. Mi lasci dire che mi dividono tante cose da Beppe Grillo, ma ci sono anche tantissime cose che Beppe ha detto che io condivido fino all'ultima sillaba. Insomma, vi ha dato dei morti l'anno scorso, vi ha dato dei morti pure a voi perché ospitate dei morti, in questo è esagerato, è estremista, diciamo la verità. È il suo modo di essere, cioè lui è in fondo un artista che fa politica. Per gli artisti, tutti gli altri, insomma, non sono così interessanti come il proprio lavoro. Ecco, in questo lui ragiona un po' da artista anche quando fa politica. Una volta mi voleva chiedere le royalty perché io riprendevo i suoi comizi, gli ho detto guarda Beppe ti sbagli, un comizio appartiene a tutti, è la sua natura, è un po' così, però detto questo è l'unico in Italia che ha parlato seriamente di conflitto di interessi, di necessità di cambiare i meccanismi economici. Poi può pure dire che io sono morto, tanto morto non sono. Vabbè, Parenzo, per concludere solo se lo so. Per concludere, Parenzo, avanti. Oltre all'in bocca al lupo, io adoro la frase di rito di anno zero, era ora anno zero può cominciare. Domani dacci un assaggio, l'inizio del tuo. Quale potrebbe essere un nuovo prologo di domani? Quale potrebbe essere il prologo di domani? Ci sarà un prologo innanzitutto. Ma io sono un cuoco, lo sai che sono un cuoco che va al mercato, quello che trova poi dopo diventa determinante per la sua cucina dopo qualche ora, per cui non ci ho ancora pensato, ci penserò, mi verrà qualcosa all'ultimo momento come al solito, io sono last minute. Ma qua, senza Berlusconi che succede a Santoro? Qualcuno dice se una volta che Berlusconi... Ero famoso prima di Berlusconi, comunque è giusto che... Cioè la cosa non mi fa piacere da ricordare perché mi riporta la mia carta d'identità, però insomma io ero già molto famoso quando Berlusconi ancora non era sceso in politica. Direi che il ragazzo si è formato guardando Samarcanda, ha tratto tantissimi suggerimenti utili, mentre quelli della sinistra chiaramente disprezzavano il nostro lavoro perché pensavano non fosse fonte di suggerimenti, lui invece guardava con attenzione e li ha fregati tutti. Quindi diciamo così, io c'ero già prima prima di lui e credo che potrò ancora resistere. Sopravviverà. Ma c'è una cosa positiva? Qualche settimana anche senza di lui. Ma c'è una cosa positiva che riconosce a Berlusconi? Ma sta scherzando. Politicamente, politicamente, sempre... politicamente, no, la televisione. Beh, politicamente, intanto la vittoria del 94, per quanto determinata anche dal potere che lui aveva, sì, enorme nelle sue mani, mediatico ed economico, ma comunque è stata una vittoria che si è meritata con l'intelligenza politica. C'è un lottatore, riconosce dote di grande lottatore, cioè di uno che non sa la fine. Ma no? Riconosco anche, diciamo, una qualità intellettuale non comune. Quindi, cioè, come la qualità intellettuale non comune? Non è una persona comune, è una persona straordinariamente intelligente. Poi adesso è un po' vecchio, ha perso la testa con la figa, però insomma. Sì, è diciamo, così. Non è una persona di poco valore, è in modo molto alla domanda. No, ma è così, ma è la realtà. Vedi, sì, questa cosa di Santoro, diciamo, come dire, uno perché deve essere ipocrita? È così, ha perso la testa con la figa, punto. Ma non ci sono discussioni. Secondo me, anche le inchieste non hanno. Io poi sono uno da questo punto di vista. L'unica parola che si può, l'unica frase è questa: ha perso la testa con la figa. Basta, tutto il resto. Vabbè, ha altri difetti sul piano politico, dal mio punto di vista. Vabbè, però, sì, vabbè, d'accordo. Ci ho detto, questo non mi impedisce di considerare il suo valore personale, cioè sarei semplicemente scemo a non vedere quello che vale sul piano personale. E comunque dovremmo studiare per capire che cosa è stato questo periodo. Cioè passerà ai libri di storia in qualche modo? Sì, cioè, già passato ai libri di storia Berlusconi, non c'è dubbio. Beh, insomma, è molto più interessante come barzellettiere che come, no, vabbè, su questo, come oggetto di studio storico. Beh, insomma, però, però ci passa, secondo me. Ci passa. Ecco. Bene, grazie, buona serata. Buona serata, grazie, domani, domani. Ma io ho già detto che sarà un trionfo, adesso non si tocchi. Non si tocchi. Però... Era per questo che ero arrabbiato con Sandro Parenzo, quindi capito? Non mi fate arrabbiare pure con voi. Se legga quello che ha detto di lei la moglie di Fede, ma non la voglio rovinare la giornata, ma a parte chi se ne frega, lei può dire. Però insomma, ha detto delle cose un po' assurde ieri da noi qui. Beh, ma è la moglie di Fede, però. Però è parlare senatore del PDL. Cioè. Al cuor non si comanda, che ti devo dire? grazie. Facciamole un saluto, facciamo un saluto alla moglie di Fede. Un abbraccio, poveretta, con tutto quello che sopporta. Appunto. si può anche sfogare ogni tanto, dice la radio, no? 30 secondi. Diamogli questa opportunità. Grazie, 30 secondi. Arrivederci. Definitiva di Santoro: Berlusconi è una persona molto intelligente, ora però ha perso la testa per la figa. Direi che con questo, che dici? Parenzo? Che è successo con Parenzo? Palazzo Chigi, roba da matti. Giorgio da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Prima di dire quello per cui avevo chiesto di intervenire sul, sì. contrasto che c'è stato ieri tra Lupi e Avete, due brevissime cose sull'intervento di Santoro, perché l'ho ascoltato intanto che ero in attesa. Bravo. La prima è che mi sembra molto singolare che Santoro accusi di tribunismo e di berlusconismo Renzi e la sua convention, perché io ho ancora negli occhi i suoi interventi da one man show, quando ha fatto quelle puntate uniche con il microfono alla bocca e con folla applaudente che ogni 30 secondi lo osannava, e quindi mi è venuta in mente quella bellissima battuta che il ministro Tremonti a suo tempo disse a proposito di Visco, dicendo che Visco era il ministro delle finanze, era come Dracula presidente dell'Avis. L'osservazione di Santoro mi ricorda su Renzi, mi ricorda. Sì, però lui ha parlato di convention berlusconiana, così nella sua costruzione no, televisiva. State uniche, avevano una costruzione da quel punto di vista molto berlusconiana, no? Vabbè, poi Deus ex machina. La seconda, poi c'è una differenza fondamentale che il radioascoltatore non sa. Che cosa? Che uno è un politico e l'altro è un giornalista. E quindi queste critiche, voglio dire, sono così, rimangono fumo nell'aria. Ma rispetto a cosa? Scusa, mica è una critica, è un'osservazione, no, che sta facendo. Un'osservazione, questa constatazione, cioè un giornalista esprime delle opinioni, dà delle notizie soprattutto. Voglio dire, la differenza in questo caso tra giornalisti e politica, anche nel caso di Santoro, ma anche nel caso nostro, io non faccio troppa differenza. Facendo questo mestiere, facciamo anche politica un po'. Ma no? Noi non veniamo eletti da nessuna parte, però. È una differenza fondamentale. Certo. Allora, Giorgio, che stava dicendo? Niente, la seconda cosa è che ho trovato altrettanto fatto singolare questa cosa circa la critica del cambio di conduzione a 8 e mezzo, per cui Santoro ritiene, come dire, tra virgolette strano e originale che in un dibattito politico vi sia la presenza di un personaggio che sostiene una tesi e un altro personaggio che sostiene una tesi diversa o comunque è in antitesi con questo. Lasciando pensare, ma forse capisco male io, interpreto male io, che invece la trasmissione ideale è quella dove c'è una monotesi portata dall'inizio alla fine in maniera esasperata. Se così fosse, allora mi viene da poter dire per sillogismo che Santoro ritiene eccellenti strumenti di informazione politica il TG1 di Minzolini e il TG4 di Emilio Fede, cosa che invece non mi sembra. Vabbè, un ragionamento contorto che non ho capito molto. Comunque, al di là di Santoro, cosa voleva dire? Sulla querela che c'è stata ieri tra Lupi e Abete. Sì. Anche qui, aiutatemi voi che siete sicuramente più informati di me, avete forse più memoria di me, ma il buon Abete non era forse quel presidente della BNL, allora banca di interesse nazionale e quindi ovviamente in mano alla lottizzazione politica e posto in quel posto grazie alla sua non tesseramento ma diciamo alla sua, sì, ho capito. Socialista. Ecco, io sono un po' stanco, premesso che ovviamente anch'io sono abbastanza deluso e qualcosa di più della cosiddetta carta politica, però sì, sono un po' stanco di questa presunta intelligenza culturale, industriale, economica, universitaria che si tira fuori da quello che è successo negli anni 80 e negli anni 90, specie, dice lei, per quelli che hanno avuto incarichi importanti magari in quota di qualche partito. Adesso non so se sia il caso di Abete. Bellissima memoria storica, per cui si ricordano perfettamente quello che è successo mezz'ora fa, un giorno fa e una settimana fa, quando magari questi personaggi, sì, dopo 40 anni di contaminazione politica stanno facendo da pochissimo tempo qualcosa di diverso, sì, hanno perso totalmente il ricordo di quello che loro sono stati all'inizio e magari grazie a quell'inizio ora possono svolgere, possono fare bene. Qua. grazie a Giorgio, non a tutti i torti questo ascoltatore, sì, non so il ruolo di Abete, ma non aveva, no, perché ho no, capito, però voglio dire, la BNL era socialista, ho capito, le nomine ma le facevano i socialisti, il debito pubblico, questo è il ragionamento che stava facendo Lupi ieri sera a Ballarò. Il debito pubblico non è che l'hanno fatto solo i partiti, l'hanno fatto i partiti in combutta con la società civile, con tutti quelli che hanno tratto vantaggio da questo debito pubblico, le assunzioni nel pubblico impiego, eccetera, eccetera, eccetera. Nessuno si può tirare fuori, in particolare quelli che partecipavano, sì, alla lottizzazione. Amico mio, la cosa più paradossale è che molti di quelli che fecero quel debito pubblico oggi siedono, sì, ma cosa c'entra questo con quello che è successo tra c'entra con quello che, con la diatriba che c'è stata tra Lupi e Abete, non c'entra nulla. È un argomento che non c'entra nulla, perché all'epoca Abete era presidente della Confindustria nel 92-93, sì, quindi non c'entra nulla. Va bene, ci sentiamo dopo la pubblicità e basta, dopo la pubblicità. Eccoci qui, caro Parenzo, sono le 8 in punto, dove ti trovi? Ecco, dai pure alle agenzie, Parenzo è arrivato a Palazzo Chigi. Benissimo, Davide Parenzo, inviato in questo caso della Zanzara, insieme anche di In Onda, trasmissione della 7, sì, è arrivato a Palazzo Chigi. Ma è iniziato il Consiglio dei Ministri? Cioè è in... Ciao, ciao, io intanto però qui c'è una ressa di persone, sì, davanti a Palazzo Chigi. Sì. Sono qui attente nella, cioè, ricapitoliamo per gli ascoltatori, Palazzo Chigi oggi è al centro dell'Europa, diciamo così, perché si, sì, deciderà in un Consiglio dei Ministri quali sono le misure che il governo intende le prendere. Le misure da prendere. E qui c'ho un signore che è arrivato che è molto arrabbiato col governo, vero? No, italiano. Ecco, avete sentito, è arrabbiatissimo col governo. Ma no, veramente ha detto che non è manco italiano, cioè è uno straniero, è un turista. È arrabbiato col governo lei, no? No. Si deve dimettere Berlusconi, giusto? Non intendo. Ecco, ha detto, non intendo, che Berlusconi si deve dimettere, ma no, perché... Ma non ha detto questo. Appena ha detto così. Ma non ha detto questo. Voi, tu capisci sempre quello che vuoi. Ha appena detto che Berlusconi si deve dimettere. Ma Annarella non c'è là, Annarella non c'è. Sto monitorando, eh. Vedi un po' se c'è Annarella. Sto monitorando, c'ho un sacco di colleghi. Intanto sentiamo Maurizio da Vicenza, buonasera. Maurizio Gasparri? No, Maurizio Gasparri no, Maurizio Gasparri è un, come sai, il capo dei senatori del PD. Comunque, Maurizio da Vicenza. Sì, buonasera. Dica. Un paio di riflessioni, la prima su Bossi e sul suo attaccamento attuale alla alle pensioni, no? Eh sì, anche oggi è scatenato, cioè scatenato sulle pensioni. Ma è molto da campagna elettorale, nel senso di andare a ricercare elettori in un bacino che non aveva mai pescato, no? Cioè il popolo padano, come lui lo chiama, l'imprenditore medio, il lavoratore, mi sembra lo stia contestando parecchio, e l'ultima spiaggia sembra quasi quella di andare a recuperare voti nel settore delle pensioni. La seconda riflessione invece è relativa al silenzio abissale di Tremonti nella situazione politica così come sì, anche se poi questa sera si è presentato all'incontro del PDL dopo essere stato in Senato, però certamente tutto sommato è il ministero di Castero, quello che ha i cordoni della borsa, insomma, no? Sì. Però ma so, pare che non abbia condiviso molto questa lettera, anzi sicuramente insomma, non l'ha condivisa questa lettera. Ha ragione, è tutto all'opposto a quello che aveva fatto come scenario lui, e si ricollega in una sorta di trade union con il Bossi, insomma, o sbaglio? Bah, in questo momento anche i rapporti tra Tremonti e Bossi non so quanto siano caldi. Bene, grazie. Andiamo a Torino. Pietro, buonasera. Buonasera. Dica. Avevo pianificato un intervento di un certo tipo. Adesso voglio prima fare una piccola divagazione su quello che è stato detto da Santoro e da un altro vostro ospite. Dunque, circa l'intelligenza di Berlusconi, questa intelligenza si è applicata soltanto sulla gestione del consenso, quindi sulla attività politica in campagna elettorale e la gestione del consenso. Vabbè, ma ci vuole intelligenza anche per fare questo. Santoro ha riconosciuto una straordinaria intelligenza a Berlusconi. Questo, insomma, mi sembra una roba interessante. È abbastanza evidente. Sì, sì, però ecco, un'intelligenza che si è applicata male, che è andata nella direzione sbagliata. Lui aveva la possibilità in Italia di fare qualcosa di straordinario, è stato il Presidente del Consiglio con il più ampio consenso dopo Mussolini, e quindi secondo me aveva la possibilità di cambiare l'Italia veramente, e aver rinunciato a questo per inseguire la piccola gloria della ricchezza personale delle donne, questa continua meschinità degli insulti alla magistratura e quant'altro, a me sembra che lui abbia perso un'occasione, forse l'occasione della sua vita. Vabbè, allora? Quindi, questo è poi con riferimento invece ai politici di cui l'Italia in questo momento ha bisogno. Io parlavo poco fa con un imprenditore, sono un consulente aziendale, quindi questo imprenditore era molto preoccupato perché aveva degli ordini che gli sono stati revocati. E allora? Queste cose io le sento in continuazione, ordini revocati, banche che non danno i finanziamenti. È la crisi economica, bellezza, non mi pare una cosa nuova, cioè non ha sentito una cosa nuova lei. Non è una cosa nuova, però queste vicende, la serietà e la gravità del momento necessitano che non ci siano politici ai massimi livelli che si esprimano con pernacchie, con dito medio, con risolini, con un ottimismo stupido. Oggi Bossi, diciamo, ha riassunto in qualche secondo tutta la sua teoria. Pernacchie e dito medio, ha bocciato Monti la riforma delle pensioni. Grazie signor Pietro, chi sta arrivando? È una macchina blu è davanti a Palazzo Chigi. Che sta entrando, ti credo che davanti a Palazzo Chigi c'è nessuno. Non c'è nessuno. Vabbè, non c'è nessuno. Confermato, c'è nessuno della macchina. La cronaca di Parenzo da Palazzo Chigi. Ciao. Non c'è nessuno. Come stai? Chi stai salutando? No, un assistente parlamentare. Un assistente parlamentare. Se vuoi te la passo la stampa. No. Allora, una detta stampa, chiedo aspetta che ti passo la zanzara in diretta. Sono Cruciani. Buonasera. Con chi parlo? Sono Federica. Federica come? Mancinelli. E sono la detta stampa di Barbara Saltamartini. Ah, la signora Saltamartini. Oggi è ospite dei nostri amici, dei nostri amici di Un Giorno da Pecora, che abbracciamo fortissimo. Molto bene. Perfetto. Grazie. Prego, buona serata. Ospiti di primissimo piano la canzara, Beh certo, altre trasmissioni hanno, diciamo, protagonisti politici, noi abbiamo. No, ma perché è troppo banale, ha detto stampa. Intervista la russa è di una banalità assoluta, lo può fare chiunque. Mentre intervistare gli addetti stampa dei deputati è una cosa molto nuova, un format nuovo che abbiamo inventato. Allora, il signor Pier Ferdinando Casini dice sul suo, dice attraverso Twitter: ogni sacrificio è inutile senza un passo indietro di Berlusconi. Che anche questa è una novità per Casini, dire una cosa del genere. Il primo problema dell'Italia è la sua credibilità. Anche oggi, dalle colonne del Corriere della Sera, il direttore De Bortoli ha detto: insomma, Berlusconi ha fatto il suo tempo. Va bene, andiamo a Milano. Sergio, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera, dottor Parenzo. Una cosa molto semplice. Lei prima ha detto una sciocchezza parlare del corridoio Berlino-Palermo. No, io non ho detto che è una sciocchezza. Io ho detto che è una sciocchezza. Se uno vuole fare buona pubblicità, ormai è quasi impossibile, a un'opera come il ponte sullo stretto di Messina, parlare del corridoio Berlino-Palermo significa proprio darsi la zappa sui piedi. Non so come dire. Sì, però, dottor Parenzo, dottor Cruciani, insomma, è un progetto della Comunità Europea. Sì, d'accordo, però Sergio, non prendiamoci in giro. È un progetto che si collega alle autostrade del mare nel Ma sì, certo, ma non è per quello che bisogna farlo. Non è perché ci sta un corridoio Berlino, ma chi ce va da Palermo, da Palermo a Berlino via mare o via, o via terra o via ferrovia? Abbia pazienza, Sergio, su. Lei lo deve dire alla Commissione Trasporti della Comunità Europea, che così come ha fatto il corridoio 5, il corridoio 6, il corridoio 8, ha fatto il corridoio 8 appunto Berlino-Palermo. Sì, ma è un corridoio, è una, come dire, sulla... è una no, sono i corridoi logistici individuati, ci sono tutta una serie di provvedimenti a lato, cioè non è una sciocchezza parlarne, poi può essere improprio, può essere qualcosa. No, ma non è questione di parlarne, è che se non tu è devi... Non è come i neutrini, cioè è una cosa estremamente precisa. È una cosa che ha certo che è una cosa precisa, non è che non è che se l'ha inventato il ministro Bernini. Ho qui al fianco un ospite che sta andando a Palazzo Chigi, Chi è? È il segretario dei radicali, signor Staderini. Signor Staderini, che dice? Oh, signor Staderini, come sta? Ma molto bene, molto bene. Oggi giornata di riposo dopo essere stato rieletto ieri segretario dei radicali, dopo una 4 giorni lunghissima. Ma che sta andando a fare a Palazzo Chigi? Che c'entra col governo? Scusi, signor Staderini. Noi infatti evitiamo di far uscire agenzie. No, come evitiamo? Staderini sta entrando a Palazzo Chigi, segretario dei radicali italiani. Palazzo Chigi per tornare a Larga Argentina dove c'è la nostra partita. Ah, non siete già alleati con Berlusconi? No, no, assolutamente. Noi vogliamo le solite riforme liberali che da 30 anni nessuno fa, Berlusconi compreso. In questo momento succede. Chi è più affidabile da questo punto di vista, Berlusconi o il Partito Democratico? Ma io credo che nessuno dei due abbia la forza di farlo, serve che nasca qualcosa di importante che li aiuti, anche le cose, che ne so, Firenze, di Zingaretti, hanno un senso nel momento in cui riportano i contenuti al centro della politica. Dunque Renzi per voi è una speranza da questo punto di vista? Ma se noi è una speranza che chiunque parla di contenuti. Vabbè, questo d'accordo, ma in questo momento Renzi... Assolutamente, assolutamente, può essere, ripeto, anche Zingaretti ha un altro stile, magari più garbato. E magari un po' più vicino alla sinistra del Partito Democratico, alla tradizione di sinistra del Partito Democratico. Ma magari no? Come rapporti umani, no? come contenuti è innovatore anche lui, pensiamo che è degli Stati Uniti d'Europa, l'elezione diretta del Presidente della Commissione Europea, sarebbe una rivoluzione. E che c'entra Zingaretti con questo? Perché lui che l'ha proposta. Ah, l'ha proposta 27, lui? 27 ottobre, il suo manifesto sul foglio. Ma è la provincia, il presidente della provincia di Roma, però, non è l'elezione diretta del presidente della Commissione Europea. No, va bene. Bisogna usare con questi ragazzi. Bene, grazie Staderini, grazie. Grazie. Altri ospiti qua. Un abbraccio, ciao. Anche ciao. Di Pietro sta andando a Berlusconi. Sì? Pubblicità, pubblicità. Ma Davide, che c'hai? Qualcuno ti sta assalendo là? Che è successo? Beh, intanto due notizie. La prima è che durante la pubblicità è passato Di Pietro, ha rilasciato qualche dichiarazione ai colleghi e poi è andato verso la Camera. Intanto, una folta delegazione del popolo viola ha, come dire... Ma che c'entra il popolo viola adesso? Il popolo viola di fronte a Palazzo Chigi? Ma che stanno a fare? Sono il tuo Paolo Brosio, fammi finire il lavoro. Allora, la premessa è questa, cari ascoltatori della Zanzara, voi che siete all'ascolto di questa trasmissione, nelle macchine, a casa, dove siete? David Parenzo è di fronte a Palazzo Chigi, dove si decidono i destini dell'Europa. Adesso lo passo in diretta al popolo viola. Ma chi? No, non mi passare. E per questo che noi chiediamo dimissioni. Sentito? Sì, come non l'ho sentito, certo. Allora, mi pare abbastanza inequivocabile. Non c'è dubbio. Il commento che ti faccio. cioè che qui mi pare abbastanza evidente che chiedono le dimissioni. Non c'è dubbio. Hanno ragione secondo te? Hanno ragione secondo te o no? No, no, secondo me no, però insomma poi... Senti, ma passami un esponente del popolo viola, ti prego. Voglio un esponente del popolo viola. Ti vuoi cucinare il popolo viola? Sì, eh? Sì, sì, sì. Aspetta che ritorno, perché sono tutti i colleghi con le telecamere, sono andate lì. Momento che qui è la Zanzara. Aspetta che la poi. Aspetta. Passami il capo salve, del popolo viola. Salve direttore, lei del popolo viola? Lei del popolo viola, direttore? Ma quello. Salve, lei del popolo viola, no? Ecco, buon Italia. Il signor Cruciani della Zanzara, se vorrete un attimo dialogare con lei. Lei è la signora Vittoria Pagliuca. La signora Vittoria Pagliuca in esclusiva alla Zanzara. Benissimo, parte, grazie, grazie. Signora Pagliuca? Sì, buonasera. Lei è esponente del popolo viola, ma che fa di fronte a Palazzo Chigi alle 20:14? Noi stiamo chiedendo le dimissioni di Berlusconi. Un referendum concettuale, in pratica. Come un referendum concettuale? Scusa. Attualmente vicini al referendum, diciamo, della Grecia, ma anche se non sarà possibile fare il referendum vero e proprio, sì, noi chiediamo che il popolo venga ascoltato. Ma scusi, ma che vuol dire un referendum concettuale? Me lo spieghi? Il referendum concettualmente nel senso che noi non abbiamo diritto di parola. Tutte non avete diritto di parola? No, attualmente no. Cioè, praticamente. No, ma scusi un attimo, ma lei, al di là di questo, vuole il referendum non so su che cosa, ma lei alle 20:14 non ha niente di meglio da fare nella vita? Ma probabilmente avrei qualcosa di meglio da fare. Cioè non c'ha un mestiere, una famiglia, dei figli, delle cose. Se la situazione non fosse quella che è ora, sicuramente avrei altre cose da fare. Benissimo, appunto, noi siamo venuti qua perché siamo in emergenza. In emergenza, non so se benissimo. Lei se ne è accorto, non so se se ne è accorto, però appunto siamo in emergenza. Vabbè, siamo in emergenza. Situazione. Volete un referendum emergenza democratica, ho capito. Sì, emergenza democratica, perché praticamente tutte le leggi che sono state fatte fino adesso sono state leggi ad personam. Tutte adesso quanti. L'unica cosa, certo, la maggior parte delle leggi. Sì, e adesso certo. L'unica cosa di cui praticamente che praticamente questo governo può fare e sa fare è quello di colpire sempre le ceto più debole. Tutto, che sono i lavoratori e le persone, i pensionati. Quindi, e volete un referendum concettuale? Noi vogliamo che la nostra voce venga ascoltata. Attraverso e noi che cosa? Chiediamo, un referendum? E noi chiediamo, noi chiediamo che questo governo si dimetta, che Berlusconi faccia l'unica cosa buona della sua vita e che deve e fare? Si dimetta. Benissimo. E si dimetta. Questa è l'unica cosa buona ho che ho capito può fare. Tutto. Signore e signori, il popolo viola. Ho denunciato la Zanzara per violazione di domicilio e nel silenzio della sera volevo compiere un omicidio. Non ho ragioni per credere che quella Zanzara ce l'avesse con me. È una persona straordinariamente intelligente. Poi adesso è un po' vecchio, ha perso la testa con la figa, però insomma, diciamo, non è una persona di poco valore. Con il giornale a costo di scivolare. E questo era Santoro, qui in diretta, la Zanzara, Radio 24, pochi istanti fa. Chiaro, chiarissimo, una persona di straordinaria intelligenza, però ha perso la testa con la figa. Parenzo, dove sei? Mi hai fatto arrabbiare la signora del popolo viola. Beh, guarda, si è arrabbiata da sola la signora del popolo viola, amico mio. Ma di che stiamo parlando? Ma non ha niente di meglio da fare, pure lei l'hai vista qua a protestare. Ma di che stiamo parlando? L'hai sentita parlare? Di che parliamo? Su. Adesso ti faccio vedere io una grande esclusiva della Zanzara che poi dici che se vi... non e se ti piace così adesso questo popolo viola, se ti piace buonasera. Così. Lei è uno molto arrabbiato col governo, vero? No, assolutamente. No. Allora, avete sentito un'altra persona molto arrabbiata con il governo, l'avete sentito? Poco fa, l'avete sentito anche poco fa. Hai il microfono grande. Ma perché sono quelli che non sono arrabbiati con il governo? Roberto, prima Roberto dalla provincia di Bergamo, poi collegamento specialissimo con non so con da dove, da Cantù, forse da Cantù o forse da un'altra località. Ma chi è che sta a Cantù? Dopo te lo spiego, fra un istante. Roberto dalla provincia di Bergamo intanto. Sì, buonasera. Buonasera, dica. Io volevo dire la mia opinione relativamente al fatto per il quale Berlusconi non lascerà mai il posto. le sue società, io parlo di Mediaset con le televisioni, l'editoria dei Mondadori, sono società che hanno bisogno di protezione politica. Questa protezione è sempre stata garantita negli anni 80 e 90 dal Partito Socialista e da Craxi. Quando poi la fine che ha fatto la conosciamo tutti. Berlusconi cercò degli sponsor diversi, tentò con Mario Segni prima, poi con Buttiglione, i quali però non si prestarono a codesta accordo, per cui lui fu costretto a scendere veramente in campo. Il problema è che lui, io sono convinto che nel momento in cui inizia il suo declino, lui è convinto che inizi il declino anche delle sue società, delle sue aziende. Ma quello che mi fa paura, sa che cosa? Cosa le fa paura? È che a me mi fa estremamente paura che io credo che lui, a lui interessi poco, poco delle sorti dell'Italia, purché le sue società rimangano sotto tutela. Ho capito, lei dice che la principale preoccupazione di Berlusconi sono le sue aziende, e non l'Italia, va bene. Esatto, il problema del conflitto di interesse era il conflitto iniziale ed è rimasto tale, tutto il resto, gli scandali così, sono dei contorni che però non hanno la sostanza che ha questa protezione politica. Ho capito, grazie Roberto. Buonasera. 800 24 00 24, la Zanzara fino alle 21 continua indefessa. Ti voglio segnalare, Parenzo, che Berlusconi è terminato da poco l'ufficio di presidenza del PDL a Palazzo Grazioli con Berlusconi, dunque diversi ministri stanno lasciando la residenza romana del premier per recarsi a Palazzo Chigi. Fra poco vedrai l'arrivo delle macchine, delle auto blu, che sono sempre troppe, ricordiamolo, quello che abbiamo detto ieri. Quant'è che sono? No? 72.000. Sì, sta per arrivare, un attimo. No. Volevo farti un'intervista in esclusiva con un poliziotto che è qui davanti. In collegamento da Cantù, la sorella del ministro Tremonti, artista, consigliere comunale a Cantù. No. Mi scusi se ho detto prima sorella del ministro Tremonti, però che vuole fare? Sì, è lui che è mio fratello. Ha ragione, lei ha perfettamente ragione, le chiedo umilmente scusa. Angiola o Angela Tremonti? Non mi ricordo più. Angela Tremonti, eccoci. Ma che qui. Meraviglia. Come sta? Meraviglia. Come sta? L'abbracciamo. Bene, voi come state? Bene, un sacco di tempo che non ci sentiamo. Io mi ricordo che vi rispondevo ed ero in un prato bellissimo in montagna. Poi non ci siamo più sentiti. Adesso ormai diventa notte presto, l'inverno alle porte. Sì. Sono contenta comunque di risentirvi. Beh, anche io, anche noi siamo molto contenti. Suo fratello Giulio è stato un po' commissariato dalla BCE. Comunque, vabbè, dai, non importa. È sempre simpatico. Suo fratello è un po', come dire, in questi giorni è un po' silenzioso. Non parla. Come mai non parla in questi giorni? Ma con voi parlo. Io parlo. Lei parla, vabbè, d'accordo. Non è la stessa cosa. Detto con tutto il rispetto, non è la stessa cosa. Per quello non è la stessa cosa. Io sono una povera artista che vive in un comune che è quello del Ranzani, sì, che è quello di Cantù, che è sempre di una comicità incredibile. Cioè faccio la consigliera comunale in un comune dove assessore e sindaco non sanno forse neanche leggere delle interrogazioni con risposta scritta. Addirittura, cioè sono ignoranti come bestie, scusi. Spendono un sacco di soldi. Cioè, scusi un attimo, a Cantù lei è consigliere comunale di che lista? Sono indipendente, mai avuto una tessera di un partito, indipendente. E il PDL non ci pensa nemmeno, il PDL? No, ci aveva tentato, lì c'è scritto nel mio libro, poi quando hanno capito che ho una testa che ragiona, sì, hanno detto no, questa non è una di quelle che alzano la mano e dicono sempre cioè non è una sorta di come tutti quelli e che allora stanno in Parlamento, no? Hanno pensato di cacciarmi, ma come si fa a cacciare una persona da un partito se non ha la tessera? Anche questo è vero. Quindi mi sono messa indipendente, sono felice di essere indipendente, sono capogruppo di una lista che ho chiamato, ahimè, lista Tremonti. Capogruppo è da solo. Sola, amica mia. Sì, però dietro c'ho il mio gruppetto, perché quelli che vanno a letto sono circa 800 cittadini, ci sono. Ah, c'è il gruppetto di cittadini, dice lei, che l'appoggiano. E poi la sindachessa, di cui non faccio cioè, lei sostanzialmente, lei signora Tremonti è il cicchitto di Cantù, possiamo dirla così? No, io sono all'opposizione della Lega. Sono nei banchi con i miei amici del PD, con un'altra lista civica, sì, proprio di questa sindachessa non me ne può fregare di meno. Ma chi è sta sindachessa, signora? E non le dico il nome perché le faccio pubblicità, e della Lega non merita. No, ormai poi ha finito il mandato, andrà a casa per sempre. E quindi facendo delle interrogazioni anche in difesa dei cittadini, anche degli handicap e tutto, interrogazioni con risposta scritta, che forse sì, tanta gente non sa sì, che hanno una valenza, devono essere, avere risposta entro 30 giorni massimo lavorativi, a me non rispondono. E ma... quando un cittadino sì, con la sedia a rotelle perde una ruota in una buca sì, e poi la Tremonti fa un'interrogazione al sindaco, dice allora quando sistemi sti marciapiedi sì, e si sente magari rispondere la voce che anche le carrozzine degli handicappati devono essere omologate, oppure settimana scorsa muore una signora in una strada perché non sì, c'era il marciapiede, forse qualche responsabile. Ah, quindi a casa sti sindaci che non lavorano. Dunque a casa la signora Sala, la signora Tiziana Sala deve andare a casa. Questa... Io non l'ho detto. Ma l'ho però, detto io, l'ho detto io. Dunque, scusi, di che partito è la signora Sala, sindaco di Cantù? Della Lega? Della Lega. E poi il signore, e questo ve lo dico, geometra. Chi è? Umberto Cappelletti ai lavori pubblici. E che fa? Che è l'assessore? Sì, assessore del PDL? Che fa le fogne, sì, che fa le fogne a casa sua. Ecco. Come fa le fogne a casa sua? Sì, porta, eccolo, porta eccolo, la fogna a casa sua. Come porta le fogne a casa sua? Scusi. Sì, si fa fare di quei soldi del comune, fa la fogna che arriva nelle sue villette. Ecco, e poi dopo manda le ordinanze ai cittadini che devono allacciarsi alla fogna. Ma è una sorta di Robin Hood di Cantù. Ecco, no, adesso non la rompi palle, però appoggio i cittadini. Scusi un attimo, lei ha rotto. Ecco. Sta arrivando Berlusconi, vabbè, ho capito. Sta arrivando una, Berlusconi. Io no, due. Aspetti, tre, che c'è l'arrivo di Berlusconi a Palazzo Chigi per questo vertice avanti, importantissimo. Ecco. È arrivato, che? È entrato. È entrato. È la Zanzara, presidente. Presidente, dentro la macchina non ci sente. Dentro la macchina non ci sente. Non ci sente. Non ci sente, vabbè. Lei ha mai parlato? Però invece si sente questo coro, questo bel coro, si sente, che vorrei documentarti. Allora, Angela Tremonti, sorella, artista, no, consigliere. È lui che è mio fratello. Scusi, Giulio Tremonti, fratello di Angela Tremonti, bravi, che è con noi collegato, artista, consigliere comunale a Cantù, all'opposizione feroce, a questo punto possiamo dire determinata. Determinata e feroce della maggioranza Lega PDL, mi sembra, Lega PDL. Sì, sì, però non facciamo una di ogni erba un fascio, parliamo di alcuni personaggi che ci amministrano, destra, sinistra, che sono veramente incapaci. Ma chi è? Questo sindaco è incapace? Questo sindaco ma sì, ma ce ne sono 100.000. Cioè, ci preoccupiamo, sì è vero, i parlamentari sì, portano a casa troppi soldi, anzi mi piacerebbe sapere questa settimana in quanti sì, alla Camera, visto che l'hanno aperta stasera mi pare alle 6 sì, quanti non hanno fatto il ponte del ponte del ponte, che secondo me in una situazione del genere la Camera doveva rimanere aperta perché non ci sono né santi né morti né Halloween. Beh, non è sbagliata questa cosa, ma lei è un po' il Beppe Grillo da questo punto di vista, no? Non mi è antipatico Beppe Grillo, non è antipatico, le piace? Ma io dico che l'unica cosa che non mi piace di Beppe Grillo è che mentre io non guadagno niente a fare l'opposizione, lui è fortunato, fa l'artista, ha il grande stile, fa pagare la poltroncina 50 euro per fare campagna elettorale. Scusi, però scusa, Parenzo, vogliamo ingaggiare la signora Tremonti, Angela Tremonti, artista, consigliere comunale di Cantù, Giulio Tremonti è il fratello di Angela Tremonti alla festa della Zanzara, ingaggiamola a questo punto. Venga con tutte le sue opere, anche da esporre lì, porti le sue opere. Porto anche il mio libro. E come no, certo. Il libro, tutti i gadget che ha. Però posso chiedere una cortesia, siccome lei ha questa R strepitosa che mi ricorda tanto quella di Giulio, mi può dire tre cose? Ripeta come IRPEF. IRAP, ILOR e 33 trentini entrarono in Trento tutti e 33 portando. IRPEF, abbasseremo l'IRPEF, me lo dica, abbasseremo l'IRPEF. Ma anche lei non riesce a parlare con suo fratello? Beh, non sarebbe male abbassare l'IRPEF, però senta, ma sai che sarebbe una cosa molto bella? E questa è una proposta, una mia idea, perché io cittadini ogni tanto li sento, li ascolto. Certo. Ma senta un po', perché non concediamo? Sì. Intanto a tutti quegli statali che magari hanno dei part time ospedalieri sì, di poter avere una partita IVA in modo tale che emerga quel nero che ogni tanto sono costretti a fare, per esempio i fisioterapisti sì, che se alle 4 del pomeriggio fanno una loro prestazione La fanno in nero, IVA, con la partita IVA ma non gli conviene emergere. Non gli conviene aprire la partita IVA. No, conviene, perché guardi che l'onestà e la chiarezza paga molto di più dell'occulto. Anche le prostitute. Guardate, ecco, questo è interessante. Anche loro sì, sono lì che attendono di poter fare una partita. Riprendiamo subito, questo è interessante. Angela Tremonti, no scusi, mi sbaglio sempre, Giulio Tremonti, fratello di Angela Tremonti che abbiamo ai nostri microfoni, propone sostanzialmente la legalizzazione della prostituzione. Torniamo subito. Ho denunciato la Zanzara per violazione di domicilio e nel silenzio della sera volevo compiere un omicidio. Non ho ragioni per credere che... Siamo qui 20:33 800 24 00 24 per chiamarci in diretta con Davide Parenzo in collegamento da Palazzo Chigi, di fronte a Palazzo Chigi. Sto cercando di entrare adesso dentro Palazzo. Ah, c'è il grande, aspetta, la notizia del momento, il grande Fabrizio Summonte del TG5 al mio fianco, quel protagonista della giornata di oggi, della testata, il grande Paolini. Ah sì, certo, come aspetta no? Che te lo passi, ti dà un saluto, perché voleva non salutarci, in realtà stava scappando via appena mi ha visto, sì. Però te lo passo, che come ti sento su Monte del TG5 in esclusiva alla Zanzara. Eccoci qua, Fabrizio. Pronto? Fabrizio, eccomi, come stai? Eccomi qua, bene. Come bene, stai? Bene. Ma allora bene, raccontaci bene un po' quello che è successo con Paolini. No, su. Che cosa ti devo raccontare? Siamo su tutti i siti qua. Lo so, raccontamelo tu, raccontami. Che hai fatto? Niente, non ce l'hai fatta più, È stata la solita aggressione, ormai ne abbiamo di tutti, abbiamo una vasta esperienza. Allora non ce l'hai fatta più? No, ce l'ho fatta, gli ho detto per piacere anche, se senti le immagini, gli ho detto per piacere, quindi credo che sia stata anche una reazione educata. Ti hai detto per piacere e basta, falla finita, eccetera. Da questo punto di vista, sì. E dunque poi è stata testata, c'è stata o no? Io non l'ho visto bene. No, non c'è stata la testata, è il movimento, si è visto il movimento, insomma, no. Niente, cioè hai fatto quasi una minaccia, no? In una situazione così per il paese, insomma, forse bisogna tenere sempre i nervi a posto, ecco. Mi dispiace se può sembrare che abbia esagerato, ecco. Vabbè, a chiedere scusa a Paolini ce ne passa, però questo assolutamente non anzi, penso, mi sembra che Mediaset l'abbia querelato, perché insomma penso che abbia una lunga serie di querele con Mediaset il signor Paolini, no? Sì, ma più che altro è per rispetto degli spettatori che stanno a casa, cioè a me non mi fa anche piacere se il collegamento è movimentato, il problema è tanta gente vuole sapere quello che succede, no? Sì. Quindi perché impedire di raccontare quello che sta succedendo? Chissà le curve quando c'è Paolini, le curve degli ascolti. Quando c'è Paolini, sarebbe curioso. Io preferirei le curve basse, cioè sotto questo punto di vista. Sai Fabrizio che Berlusconi pare abbia perso uno dei suoi più strenui difensori, che ha detto si deve fare da parte, ci vuole un governo con Gianni Letta. Insomma, siamo qui nel cuore della sei sul pezzo, eh? Sei sul pezzo. Ma ce l'hai al telefono? Aspetta, che fra poco arriva. Se arriva ti richiamo, facciamo insieme, va bene? Fabrizio su Monte. Se abbiamo al telefono adesso Maurizio Paolini, se lo intervistiamo insieme a Parenzo. Va bene. Buona serata. Ciao Fabrizio. Ciao. Allora, ci sei? Abbiamo? Sì, ecco, signora Tremonti, eccoci sono qua. Sono io che ho detto diamo la partita IVA anche alle prostitute. Esatto. E non il mio fratello. No, lei. Come? Ecco. Cioè, suo fratello anche è contrario? Va bene tutto, ma non lo so, sono mie idee. Sì. Io sono un po', io faccio l'artista, quindi ogni tanto credo che la creatività non sia solo mettere insieme dei colori o creare delle forme scultoree o scrivere dei testi, ma magari sentire la gente, pensare e proporre. Poi non sta a me realizzare come legge un pensiero. Però lei, fosse per lei, ci sarebbe la legalizzazione della prostituzione. Sì, anche perché credo che le prostitute che io ho incontrato e conosciuto nell'anno in cui ho insegnato in un carcere siano donne anche di un certo valore, perché le prostitute non porteranno mai via a me e mio marito. Al limite daranno a pagamento un'ora di soddisfazione erotica o sessuale. Anche a suo marito. Invece le donne che io non stimo sono le signore, che io considero signore prostitute, che sono quelle che si insinuano nelle famiglie per disfare i matrimoni e diventare le mogli nuove. Bellissima questa cosa qua. La... Come bellissima? Ma che è bellissima, è una cosa pazzesca. Perché? Una teoria meravigliosa, scusa. Io sono una donna e mi considero una donna che con dei valori, poi tutti discutibili, però la donna è madre, la donna diventa nonna, la donna ha i figli, la donna lavora e fa tre lavori insieme, perché lavora in casa, lavora in fabbrica e in più educa i figli. Ma scusa, non eri, Parenzo, non eri d'accordo con la legalizzazione della prostituzione? Sì, no, ma quest'ultima parte del ragionamento mi, che dice queste sono contro quelle prostitute che invece diventano amanti. No, e poi non hai capito, non ha detto questo. No. Ha detto, no, ha quelle detto... che si insinuano poi nelle famiglie. Loro sono prostitute, dice ecco. Angela Tremonti, non le vere prostitute che danno solo che soddisfazione. Che si fanno regalare il gioiello, che escono a cena, le macchinine di qui di là. Queste io non le considero donne. Beh, quelle che vanno da Berlusconi a casa di Berlusconi come no, le considera? Io non ho poca stima di queste persone, però dico anche che Berlusconi con i suoi soldi, invece di comprare un'opera d'arte di Chagall o di Cézanne, se ha il piacere, invece di mettere lì sul muro un quadro, di spendere i suoi soldi con queste donne, io non arrivo a condannare Berlusconi, sono sue scelte, sono suoi soldi. Però? Certo che le donne che si prestano queste cose, scusate, ma per me quelle non sono donne, sono zanzare un po' offensivo, zanzare, chiamiamole pecorine. Come pecorine? La pecorina, avete presente la pecorina? No, beh sì, abbiamo presente, però sotto un altro aspetto. Come ecco, dire? Ma lasciamole lì proprio, sono persone che non sono neanche persone. Io stimo di più un cane, un gatto di queste donne qua. Ma addirittura, sì. Ma vanno, scusi, signora Tremonti, però vanno... Mi fanno pure un po' schifo. Vanno liberamente a casa del signor Berlusconi quando ci vanno e ricevono guardi, dei regali. E ricevono ma guardi dei... che non vanno solo a casa di Berlusconi. No, certo. Vanno no. a casa di chi ha i soldi e le chiama. E per me le donne prezzolate in questo modo, che fanno delle scelte di classe, di profumi, di ambienti, di ville, eccetera, non sono donne. Le prostitute che sono per strada sono lì, che passi grasso, piccolo, grande, sono lì, iniziano, finiscono un loro servizio che sarà abominevole, che sarà schifoso, ma con la loro piccola dignità. E secondo me sono donne che non porteranno mai via il marito a qualcuno, che non vanno a mettersi gioielli, al limite hanno una minigonna, stanno al freddo d'inverno, al caldo d'estate, e siccome le ho conosciute anche in carcere, godono della mia stima perché fanno un lavoro antico come il mondo. Senta, signora Tremonti, ma io voglio capire una cosa da lei. Berlusconi, diciamo la verità, è finito, no? Intanto io non lo conosco. A me io non sono mai stata invitata a casa sua. Però ha finito, cioè si è chiuso un ciclo, no? È tutto ma finito. Io, se posso dire una mia attribuiscono questa frase a suo fratello. Il vero problema non è la lettera all'Unione Europea, il problema sei tu. Questo avrebbe detto, allora, è credibile questa cosa? Io credo che, così, questa è una cosa che dico io, se posso dire a una persona importante, perché io la reputo importante, sicuramente più importante della Merkel di Sarkozy. Io posso dire, spero mi senta, Berlusconi, ragioniamo un attimo, c'è la possibilità di essere un po' più gommosi, un po' più morbidi, cercare di accettare non solo le richieste dei vari ministri che continuano a esasperare le richieste di denaro per poi darlo a pioggia ai loro protetti. C'è la possibilità di far capire a questa Italia che noi siamo in una situazione disperata, che le varie categorie devono abbassare tutte la cresta, soprattutto le più alte, e darsi una regolata, perché qui non si è ancora capito, forse perché gli italiani non hanno ancora capito che cosa può succedere. Scusi, però dia un consiglio a Berlusconi, caro presidente, se lo vuole dare, passi la mano, ma perché gli devo dire di passare che la mano? Magari lo pensa. Io dico Berlusconi, sarebbe anche una scelta furba, rimani, tu ci sei, ok, va bene, hai un ruolo come questo quello di un padre di famiglia. Sì. Ascolta tutti e metti insieme tutti, tenendo presente che la crisi è la crisi, e quello è la persona che deve risolvere il problema della crisi è una. Poi attribuisce a questa persona che si assume le responsabilità è uno scarico di responsabilità. Cioè lei vuole dire è una tutto... azione furba. Scusi. Tu rimani lì, ma fai che gli altri non ho capito sincronizzino niente. Il tutto. Non ho capito niente, non ho capito niente. Non si è capito niente. Te lo ripeto in modo più chiaro. No, voglio dire. Era un po' contorto. Era un po' contorto. Allora, io voglio chiedere una politica. No, per carità, va benissimo. Signora Tremonti, le voglio chiedere una cosa, ma alla fine suo fratello che rapporti ha oggi con Berlusconi? E questa che la... ne so io. E che ne so, magari l'ha sentito. Da quanto tempo è che non sente suo fratello? Ma no, 50 anni. No, non è vero, ma non è vero. 50 anni, giuro. Ma no. 50 anni. Ma come, sì, non è vero che non mi sentite da 50 anni? Eh sì, da 50 anni che non lo sento. Ma no, ma ci ha raccontato un'altra cosa. Allora, Giulio sta benissimo. Sì. Oggi ha lavorato come una bestia. Dall'altra parte, Giulio ha un suo incarico ben preciso e limitato. E lui lo sta svolgendo egregiamente. Adesso andrà al G20 e staremo a vedere cosa succede. Tra l'altro mi pare che la borsa stia risalendo. Però voglio dire, tra i due non corre ormai Berlusconi e Tremonti è da tempo che sono in rotta. Logorato, è un rapporto logorato. Come faccio? E io può darsi, dopo tanti anni potrebbe essere logorato. Cioè non ne può più suo fratello, non ne può più di Berlusconi. Credo che ci possa essere un po' di rispetto e che ciascuno pieghi un po' la testa ed insieme si può ancora continuare. Lei dice, eh? Però bisogna piegare la testa. Cioè chi è che la deve piegare? Sì, tutti e due. Senza darsi una cragnata. Ma questo è bello. Era bello. Scusi, ma che suo fratello, secondo lei, dopo questa esperienza da ministro, che vuole fare nella vita? C'ha un'ambizione? Il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio? Intanto non lo so. Certo che nel mio libro la veggente... Nel mio libro La Valle degli Orsi edito da Bonpiani, consentitemi. Benissimo, facciamo fare un po' di pubblicità. Certo. La veggente ha detto che sarebbe diventato la veggente il Presidente della Repubblica e ci abbiamo fatto una risata. Giulio aveva 7-8 anni. Ci è arrivato vicino. Io a mio fratello auguro ogni bene. Sì. Devo anche dire che Giulio non è uno che se smette di fare il ministro non ha lavoro. Ah, su quello non c'è dubbio. Su Anzi, forse ci sta perdendo nettamente. Scusi un attimo, ma lei per esempio, suo fratello ha un reddito molto alto perché è uno studio d'avvocato. Ma lei non ha lo studio d'avvocato che l'ha ceduto. Sì, vabbè, comunque insomma ancora avrà delle quote. Ma per il mio reddito. Il suo reddito, quant'è? No. Allora, io percepisco una baby pensione, ho già chiesto scusa a tutti, però sono riuscita ad andare in pensione in quell'epoca, che è di 980 euro. Baby pensione, a che età è andata in pensione? Io sono andata in pensione, l'età non ve la dico, perché poi risalite anche quanti anni ho, ma queste veramente delle spie. Sì. Io nell'89 ho smesso di insegnare, per 3 anni non ho percepito pensione, dopo 17 anni di effettivo totale lavoro con 20 giorni di malattia. Lei è come la moglie di Bossi, chi mi stai passando? Sì, ma non mi vergogno, sai, di dirlo. No, chi l'ha detto? Perché in quel momento ho avuto questa opportunità e ne ho approfittato, la fortuna, proprio la fortuna, perché mio marito è arrivato a casa con una moto schizzata, gli ho chiesto quanto hai speso? Ho fatto 2 calcoli, ho detto, ma questo compra una moto che costa come un mio anno di lavoro a scuola. E allora? E il giorno dopo sono andata, ho presentato i documenti e ho chiesto di andare in pensione. Baby pensionata, Angela Tremonti. No, allora, Parenzo, che ma c'è? Mi vergogno un po', ma non troppo. Ma era la legge, non ho fatto niente di male. No, ma per carità, non c'è. Ho fatto anche tanto volontariato comunque. Parenzo, chi c'hai alla vicina? No, in esclusiva alla Zanzara. Sì? Parla Alessandra Sardoni del DG della 7. Oh, pronto? Beh, Alessandra, c'è questa notizia strepitosa che è arrivata questa sera. Chi poteva aspettarsi una cosa di questo tipo? Maurizio Paniz dice a Berlusconi: fatti da parte. È come se, non so come dire, è come se fai un paragone tu. Il mondo alla rovescia, Fai un paragone tu. È come se, non lo so perché. Non lo so manco io. La cosa più spaventosa potrebbe essere Bondi. È Bondi che dice a Berlusconi. Esatto. esatto, bravo. O dopo Panis forse c'è Bondi, che dice Bondi, a Berlusconi. Senza Bondi forse ancora Panis, non lo so, insomma ancora ci può stupire meno di Bondi. Meno di Bondi, solo Bondi ci può stupire più di Panis. Vabbè, abbiamo il traffico, grazie, un abbraccio ad Alessandra Sardoni, cronista della 7, cronista politica della 7, il traffico, torniamo subito, sempre con noi Angela Tremonti, baby pensionata. Ho denunciato la zanzara per violazione di domicilio e nel silenzio della sera volevo compiere un omicidio. Non ho ragioni per credere che quella zanzara ce l'avesse con me. Niente di personale, ma la zanzara di notte in città è una delle cose che ti fa soffrire. Arrampicarsi sopra i muri per farla morire, cercare di arrivare a ucciderla con il giornale a costo di scivolare e di farsi male. E chi ce l'ha così con noi? Chi se la prende con noi, caro Parenzo? Questa ecco. È la zanzara. Panitz, che dice che Berlusconi si deve dimettere, mi suggerisce un amico da Torino, e come se Mentana a un certo punto impazzisce e comincia a fare il tifo per la Juventus, diciamo la verità, insomma, sì, questa... lui grande interista, certo, grande interista, certo. Comincia a fare il tifo per la Juventus, ha capito, dacci una notizia. Una notizia, sì, a me e alla signora Tremonti dai una notizia. La notizia è che è cominciato da poco il Consiglio dei ministri. Vabbè, questo l'avevamo capito, colleghi di tutte le testate, va bene, e c'è un clima di attesa. C'è un clima di attesa. Beh, questa sarebbe la notizia, insomma. Cioè? No, voglio, cioè, ma signor Tremonti, dica qualcosa a Parenzo. Dica qualcosa a Parenzo di cercare di fare il cronista vero, no? Che no, ci... Ma questa è la zanzara. No, dai. Allora, signor Tremonti, ma come mai tutti quanti stanno scappando? Panitz che dice che Berlusconi si deve dimettere. Ieri da noi Antonione ha detto pure lui la stessa cosa. Un sacco di gente che è stata con Berlusconi fino a ieri dice che Berlusconi deve andare via. Beh, intanto io ho poca stima di queste persone, perché se sono state elette da una parte e con un personaggio, sì, secondo me la coerenza porta ad andare fino in fondo. Poi chi vuole lasciare, però io sono una baby pensionata, sì, perché per 20 anni ho lavorato, ma questi parlamentari che sono lì eletti da 3 anni, sì, e che sanno benissimo che se vanno a casa domani, perché si vanno a nuove elezioni, non prendono la, io non lo so, quella la chiamo la pensione dei fancazzisti. Sì. Sa chi sono i fancazzisti? E come no? Ecco, ecco, questi parlamentari se vanno a casa non prendono più la pensione, allora sì, cosa puntano? Mandare a casa Berlusconi, sì, fare il governo tecnico, rimanere attaccati alle poltrone. Brava. Per poter maturare la loro pensione da fancazzisti, sì, perché altro non li si può definire, sì, e secondo voi questi vogliono il bene del paese? Con le borse che vanno a picco. Ma lo sai Parenzo, che la signora Tremonti io la voglio assumere come notista politica alla zanzara, perché ha fatto un'analisi perfetta, che è quello che ti ho detto l'altro giorno, cioè ci sono un sacco di deputati che vogliono in realtà far cadere Berlusconi, perché perché vogliono il governo tecnico che li porta al 2013 e non le elezioni. Però, stiamo parlando con la sorella del ministro Tremonti, no, è l'ultimo mio fratello. Non ti permettere, non ti permettere. Dico con tutto il rispetto, che va benissimo, voglio salutarti però in diretta, ma lui non può parlare con noi, con il portavoce del ministro Tremonti. Dica solo Pepe. Buonasera alla zanzara. Pepe. No, gli passo. Pepe. No, Pepe, parla con la sorella Pepe. Del ministro, Pepe. Filippo. La sorella del ministro in linea, vuole andare a salutare la sorella del ministro. Buonasera signora. Pepe, buonasera, speriamo di sentirci, massima stima nei suoi confronti. Le manda tanti saluti, un abbraccio, e siccome non si sento col fratello, sono 50 anni che non si sento, ma cioè, è possibile che lei che porta voce? Ecco, sta chiamando Tremonti. Sta chiamando Tremonti in diretta, capito, il portavoce? Perfetto, mio fratello dirà che non devo più parlare. Ma è vero o no che non lo sente? Non è vero che non lo sente da 50 anni, su, non diciamo stupidità. 50 anni che non lo sento. Ma no, ma su, ma giuro. Andiamo. Anzi, direi 85. No, ma no, adesso lei sta esagerando come al solito, su. Non è possibile. Perché ci vuole coglionare così, signora Tremonti? Ma no, dai. L'ultima volta che l'ha sentito, quando è stato l'ultima volta? È stato alla prima della Scala di 8 anni fa. Ma no, no, vabbè. Ma non è possibile. Ma no. Ma ci sta prendendo in giro, su. No, l'ultima volta che l'ho sentito il giorno dopo che ho parlato con voi. Beh, sì, perché... Sì, perché mi ha detto, tu alla zanzara non devi più andare. Eccoci ma qua. Non è vero, non le ha detto questo. Vabbè, devo chiudere. Ci sentiamo domani? Beh, sentiamo. sentiamoci. A tutti una buona serata, a quelli che rientrano a casa, sì, e a voi brava. Buon lavoro. Un abbraccio, ma lei è meravigliosa. A presto. Molto gentile. Grazie. Dobbiamo chiudere anche con Palazzo Chigi, sì. Con questa surreale diretta, ma meravigliosa, no. di David Parenzo. Da Palazzo Chigi, dove è iniziato il Consiglio dei Ministri. Devo dire una cosa, che ripeto, Paniz che lascia Berlusconi, sbizzaritevi voi, forse è una sorpresa, non so di che tipo, cioè se Bondi avesse lasciato Berlusconi, cioè se Bondi avesse detto Berlusconi si deve dimettere, forse sarebbe stata una cosa più grossa. Paniz si avvicina no, al top. Molto curioso. Ci sentiamo domani 18:30, la Zanzara. Ciao. Saluti. Ciao. È una persona straordinariamente intelligente. Poi adesso è un po' vecchio, ha perso la testa con la figa, però insomma, diciamo, non è una persona di poco valore, ecco. Tutta una vita per il cinema, tutta una vita per l'amore. Io preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare, cioè non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamola com'è. La patonza deve girare.